In che modo li selezioniamo? Lo facciamo a partire da una loro caratteristica strutturale. Quindi dobbiamo scegliere la caratteristica strutturale dei nodi che vogliamo eliminare dalla rete. Un grafo può essere ridotto sulla base del grado o della adiacenza dei nodi che lo compongono. Nel caso del grafo semplice questi due concetti sostanzialmente coincidono. Ecco, se dovessimo pensare al grafo semplice potremmo dire che per esempio ci vogliamo soffermare soltanto sulla rete garantita dai nodi che hanno almeno 3 adiacenze, 2 adiacenze, eccetera, e quindi eliminare dalla rete tutti i nodi e conseguentemente i legami che essi hanno che non soddisfano questo criterio minimo di adiacenza. Quindi per esempio possono essere cancellati i nodi che hanno un certo grado, il grado 0, i nodi isolati, il grado 1, 2, eccetera. Questo può avere un senso perché se voi per esempio avete una rete composta da 10 nodi, 5 di questi sono tutti collegati tra loro e 5 sono isolati, e calcolate la densità tendenzialmente sarà bassa di un grafo di questo tipo, ok? Quindi uno studioso potrebbe essere interessato a spiegare che ci sono alcuni punti isolati, a eliminarli e poi a concentrarsi soltanto sui soggetti che sono tra di loro connessi. Ecco, il secondo criterio invece, cioè l'individuazione dei grafi annidati, vale unicamente per i grafi dotati di molteplicità dei legami, cioè i grafi in cui tra due nodi ci sono più legami contemporaneamente. Questo criterio di condensazione consiste nella selezione di sottografi che contengano solo nodi collegati da legami di molteplicità M o superiore ad M. Abbiamo studiato contemporaneamente 10 legami? Bene, vogliamo ridurre il grafo tenendo in considerazione solo i nodi che sono collegati tra loro da legami di molteplicità almeno pari a 5. Ok? Scegliamo noi il criterio ed è questo un modo per semplificare la struttura della rete. Sì, prego. No, stavo pensando, se volete, se vi è interessata quella cosa che abbiamo fatto ieri, potremmo anche dedicare qualche minuto a fare un esempio di costruzione di una rete con una matrice e il calcolo di qualche grandezza. Cosa dite? Perché no? Vi piacerebbe farlo? Io ho visto che forse questo è molto più, diciamo, comprensibile, perché è un dato tangibile, insomma, è una cosa molto più concretamente comprensibile. Ok, allora poi al limite lo facciamo, d'accordo? Io ho compreso molte cose, per esempio quando lei ha elaborato i dati della matrice, che prima non avevo capito. Ah sì? Bene, allora poi facciamo un altro esempio, un altro esempio di questo. Al limite possiamo intervallare questo esempio tra la presentazione di un articolo e l'altro, dopo, d'accordo? Così arricchiamo e differenziamo il menu, diciamo così. Facendo magari un esempio attinente all'ambito dell'emergenza, come abbiamo fatto anche ieri, sostanzialmente anche quello è un esempio di questo. Bene, queste sono delle prove di riduzione. Stiamo parlando, aggiorno il vostro collega che è appena arrivato, della riduzione delle reti. Come si semplifica la struttura delle reti? In base a qualche criterio. Allora, sopra abbiamo la rete di partenza. Come chiamereste quel grafo? Che tipo di grafo è quello? Quello sopra l'altro? Sì. Pesato. No. Pesato. No. No, va. Quello ha un antenato, no? No. C'è il peso. Ah, no, c'è il peso, non sono effetti. È un grafo completo. Completo, esatto. È un grafo completo. No, continuo. Che cos'è? Un grafo completo è un grafo nel quale tutti i nodi sono tra di loro, in cui sono stati attivati tutti i legami potenzialmente attivati. Ma pensate alle, per inquadrare subito un grafo bisogna pensare alle caratteristiche dei legami e vedere quali caratteristiche dei legami trovate là dentro. Continuo, dice. Lei vuol dire connesso, senza dubbio un grafo connesso ha la caratteristica della connessione, su questo non ci piove, cioè tutti i nodi sono da loro raggiungibili, giusto, corretto, ok? Però c'è un criterio più semplice, più generale, perché questa è già una qualità del grafo particolare, il fatto che ci sia la connessione. Che caratteristiche dei legami trovate lì? Non c'è un verso, però c'è un doppio legame. Non c'è un verso. E allora, se non c'è un verso e c'è un doppio legame, che cosa c'è tra quei due nodi? Quanti legami ci sono tra quei due nodi? Tra nodo A e nodo B, quanti legami diversi ci sono? Vedete che io stavo uscendo. Se non arrivava multiplo entro il tempo di arrivare dalla porta, andavo via. È un grafo multiplo, benissimo, è un grafo multiplo. Perché c'è la molteplicità dei legami, d'accordo? Allora, vediamo un po', è tutto chiaro? Sì, tra A e B, per esempio, ci sono due legami diversi. Per esempio, sono parenti, sì o no? Sì, sono colleghi di lavoro, sì o no? A e B sono parenti e colleghi di lavoro. Facciamo un esempio, d'accordo? E per quello ci sono due linee diverse che li uniscono. Adesso, al di là degli esempi, diciamo così, sulle che tipi di legami possano essere, però... Qui ci sono degli scenari prodotti dalla riduzione, dalla semplificazione di questo grafo. Ok? Questa è una riduzione ad adiacenza 3. Cioè qui teniamo soltanto i nodi che hanno una adiacenza, cioè sono adiacenti ad almeno altri 3 nodi. Ok? A è adiacente a 3 nodi? A quanti nodi adiacenti ha? A 1. B? A 2. Quindi sia A che B li cancelliamo, ok? C è adiacente a 3. Vedete infatti che C rimane, d'accordo? E D? A 3. Anche D a 3, quindi 3 rimane. D rimane, scusatemi. Poi F è adiacente a 3 nodi e resta anche F, ma E e G no. E quindi se noi lo riduciamo in questo modo, guardando cioè le adiacenze, otteniamo la trasformazione del grafo in questa versione semplificata. Ok? Se utilizziamo un altro criterio, per esempio il criterio molteplicità 2, ma perché non me la messo B anche? Perché B è adiacente a 2 nodi, è vero. Attenzione, perché il concetto di adiacenza coincide con il concetto di grado, quante linee sono incidenti con il nodo, soltanto nel grafo semplice. Questo è un grafo multiplo, d'accordo? Ricordate che ne avevamo parlato anche di questa differenza introducendo l'argomento. Questa riduzione qui è una riduzione a molteplicità 2. Che cosa vuol dire riduzione a molteplicità 2? Che teniamo in considerazione soltanto i nodi tra di loro collegati da 2 legami, ok? Non basta un legame, ce ne servono 2. A e B sono collegati tra di loro da due legami, quindi A e B restano, ma anche la coppia B e C potrà restare, perché B e C sono collegati tra di loro, vedete ci sono due lineette che li collegano, tutti gli altri, il settore diciamo D e che ruota intorno a D sparisce, perché c'è solo un legame che riguarda questi nodi, come pure sparisce il legame tra C ed F, perché è unico, ci sono almeno due legami, ma resta il legame tra E e F e il legame tra F e G. Vedete che cambiando il criterio utilizzato per la semplificazione, per la riduzione del grafo, otteniamo, in questo caso grazie alla molteplicità, è come se identificassimo dei grafi annidati all'interno con un criterio soglia di molteplicità, ma cambia lo scenario che ci troviamo di fronte. Infine, la riduzione a grado 3, il grado è, qual è la definizione di grado? Numero di linee, incidenti nel nodo. Con il nodo, benissimo, e abbiamo A come? G e G-1, altrimenti il discorso che facevamo sempre sulle forme. Nel grafo semplice questa grandezza può variare tra 0 e 1. Nel grafo semplice? In un grafo semplice composto da G nodi, da un numero di nodi pari a G. A G meno 1. Beh, l'ho chiesto perché aveva già una risposta. Lei ha una risposta con un nodo tra due nodi, un legame. Due nodi un legame, esatto. Se c'è il legame, abbiamo detto che ci sia. Ok, bene. Allora, se utilizziamo il criterio del grado, A sparisce, B può restare? Deve essere almeno 3. Qual è il grado di B? 4. E quindi può restare. E C? 4 anche C, rimane anche C. D è a 3 e resta anche D. E alla fine abbiamo F che ha grado pari a 5. Benissimo. E resta perché soddisfa la soglia minima di Fedra. Vedete che se cambia il criterio, cioè il modo che noi scegliamo per semplificare il grafo, abbiamo tre scenari diversi. Possiamo fare un esempio adesso di esigenze teoriche diverse collegabili a questi tre criteri, perché poi alla fine dobbiamo dare sempre un contenuto concreto a quello che stiamo dicendo. Dica. Ma se io non ho il grafo, devo fare la cosa contraria, ma se io ho una rappresentazione con un grafo ridotto, quello di riduzione grado 3. Sì. Sono in grado poi di ricostruirlo? Beh certo, è lei che lo costruisce a partire dal... No, se non conosco quello là, ma ho una rappresentazione in cui loro mi dicono questo è un grafo a riduzione a grado 3. E chi è questa persona perfida? Che le fa lo scherzo per vedere se lei riesce a risalire? No, è una domanda che mi ero posta. No, ma... Non lo so, magari qualcuno mi rappresenta un grafo invece di darmi tutto il grafo. Non è possibile. Non è possibile. No, non è possibile perché il grado 3 può essere dovuto a tre legami diversi, a un unico legame di questo nodo con questo e a due legami con un altro nodo. Quindi, ma allora che cosa mi serve a ridurli? Serve al contrario, cioè lei non deve partire dalla riduzione dal punto di vista logico, no? Per arrivare al grafo di partenza. È chiaro che si può fare il percorso ritroso se lei l'ha fatto prima nel verso, diciamo così, della riduzione. Lei deve partire dal presupposto che ha una situazione del genere, che lei la trova la situazione lì. Dopodiché la vuole semplificare, vuole che emerga le porzioni della rete che sono più significative rispetto a qualche aspetto, qualche particolarità che la interessa nello studio che sta facendo. Ok? Per questo adesso vi chiedo, proviamo a fare un esempio. Che tipo di esigenze, che tipo di domande giustificano questa o quest'altra riduzione? Perché sono tre scenari completamente diversi, collegati allo stesso grafo. Ora, qui è molto semplice, d'accordo? Abbiamo soltanto 9 nodi, quindi voglio dire, non è che sia particolarmente utile, ma immaginate di avere una situazione con 20-30 grafi e volete semplificare la situazione. Allora, per la adiacenza, se utilizzate la adiacenza come criterio, vi interessa sapere quanti sono i nodi collegati tra di loro direttamente. Cioè vi interessa far emergere la rete dei nodi più centrali, quello che rimane rispetto a una caratteristica di connettività del nodo. Ed è, e questa è una cosa, d'accordo? Se invece vi interessa far emergere ciò che conta all'interno del grafo, quindi ridurlo non tanto rispetto a quante persone frequenta, con quante persone è in collegamento ciascuno, ma quanti legami ha, perché vi interessa che ci siano almeno 4 o 5 legami diversi di sostegno tra queste persone, volete essere capito un criterio, un valore soglia che per voi è significativo, e decidete, bene, secondo me io voglio capire qual è il grafo che funziona, perché su 10 tipi di aiuto che io, per i quali ho fatto la domanda, ce ne sono almeno 4. È chiaro che se tutti sono 8 e 4 non serve questo criterio, d'accordo? Cioè, ragionando con seno di poi non serve, però se vedete che la media è una media, insomma, di 3, e volete capire qual è, se c'è un pezzo di rete che funziona meglio, allora invece di scegliere l'adiacenza, scegliete, perché vi interessa di più che ciascuno aiuti per 3 cose diverse l'altro, invece che aiutare tante persone. Vedete che sono criteri, sono domande diverse. Ora, e quindi si giustifica anche il fatto così che abbiamo veramente degli scenari molto diversi, sia per la rete che rimane, sia per i nodi che restano all'interno. Vedete, per esempio, A, in queste due riduzioni sparisce, qui invece rimane, no? Ma sono molto curioso di vedere in che modo reagirete a, perché gli studi che vedremo oggi sono fondati un po' su questo stesso piano. Cioè, oggi dopo vedremo uno studio che propone, prima dell'analisi dei dati, 6 ipotesi di ricerca in situazione di emergenza, dopo un uragano Andrew. D'accordo? 6 ipotesi di ricerca. Queste ipotesi di ricerca sono tratte dalla letteratura. D'accordo? E io sono molto curioso di vedere voi che operate sul campo, come reagirete a queste ipotesi di ricerca che provengono da altri studi che magari voi non formulereste mai per l'esperienza che avete avuto, oppure le formulereste. Sono, insomma, curioso di vedere che cosa vorrà chiedere qualcosa. Sì, secondo non è che voglio fare un intervento, però secondo me anche questa scomposizione ti darebbe anche più strumenti a incidere perché se prendiamo esempi di persone e noi vediamo queste caratteristiche, diciamo che lì dove si può incidere o cercare di creare nodi, eccetera, cioè facendo una scomposizione è più facile dopo pensarci su, nel senso. Cioè lei dice nella prospettiva dell'intervento? Sì. Certo, sì. Perché sarebbe anche l'unico, è come il pittore, diciamo, che per pitturare una persona si dice che devi prima imparare parzialmente a pitturare il corpo umano. Cioè, devi per dire saper pitturare bene da solo un braccio per dopo attaccare. Però l'intervento dipende dagli scopi che avete. Quindi, siccome l'intervento dipende dagli scopi, anche il tipo di riduzione, cioè l'aspetto che vuole far emergere il pittore, diciamo così, per usare la sua metafora, in qualche modo è collegato alla necessità teorica. Ok. Veniamo a questo tema un po' conclusivo, che mi dà anche il là per fare un discorso sulle prospettive teoriche, i limiti un po', le prospettive teoriche di sviluppo che possono avere, che può avere l'analisi delle reti sociali. Allora, questo insieme di tecniche a voi serve come tecniche, quindi il problema teorico ti può interessare come amatori, diciamo così, a livello amatoriale, nel senso che si può riflettere su quello, eccetera, però secondo me l'uso che voi ne farete sarà un uso comune, quindi dopo la probabilità che dopo la prima volta, così anche la seconda, sarà molto collegato all'utilità che avrà dimostrato, d'accordo? Ecco, allora, questo segmento, diciamo, questo segmento di studio, l'analisi delle posizioni e dei ruoli, è uno dei più, probabilmente dei più promettenti nell'analisi delle reti sociali, che è molto complessa, è complessa soprattutto la natura del dato, quindi il percorso che si deve fare per raccogliere i dati. è più complessa rispetto a un'indagine standard, allora ne deve valere la pena, no? Ci sono tanti ostacoli da superare. Ecco, tra diciamo le prospettive che alcuni studiosi identificano come le più promettenti c'è proprio questa, cioè lo studio delle posizioni e dei ruoli. Perché questo è importante? Per l'organizzazione. In che senso per l'organizzazione? Diciamo nelle problematiche organizzative l'analisi delle posizioni serve per esempio fotografare un dato di fatto e innestare su questo ipotesi di miglioramento, per esempio. Ecco. Trasformazione, modifica, integrazione di posizioni. Come si... Per capire anche il livello, tra virgolette, il livello di connessione che hai, quindi anche il livello gerarchico potresti avere all'interno della struttura. Esatto, anche questo aspetto è importante ed è collegato a quello che diceva il vostro collega. Quando noi parliamo di posizioni in sociologia, facciamo riferimento al concetto di status, sostanzialmente, no? Cioè la posizione è il posto che, ricoprendo uno status, e quindi i posti, se abbiamo più status, facciamo più cose diverse che ci mettono in contatto con gli altri, noi abbiamo all'interno della nostra struttura sociale, ok? Perché questa posizione è importante? Perché ad essa si collega in genere il concetto di ruolo. Prima sentivo alcuni di voi che parlavano, no? Dicevano no, però in questo caso qua, dal punto di vista, come studenti dobbiamo fare questo e quell'altro, no? Eccetera. E cosa vuol dire questo? Quando c'è il concetto di posizione, il concetto di quindi di posizionamento dentro una struttura, ha senso il concetto di ruolo? Non c'è ruolo se non c'è aspettativa da parte degli altri. Il ruolo consiste sostanzialmente nelle aspettative che gli altri hanno rispetto alle nostre azioni. Per cui la vostra aspettativa oggi da me è che io venga qui e provi a spiegare delle cose che possono essere interessanti per il vostro percorso formativo. Questa è l'aspettativa, d'accordo? Rispetto al ruolo che io sto esercitando. Se non c'è l'altro non c'è il ruolo, se non c'è la relazione con l'altro non c'è il ruolo. Qui siamo a un discorso piuttosto generale, diciamo così, no? Collegato appunto alla struttura sociale, per cui un'istituzione, un'organizzazione è un insieme di posizioni, perché è un insieme di status collegati tra di loro e un insieme di ruoli collegati tra di loro, ok? Perché è importante nell'ambito, in modo particolare nell'ambito dell'analisi delle reti? Perché che nello studio delle organizzazioni come della società sia importante studiare i ruoli non è una scoperta della network analysis, d'accordo? Qual è il legame tra il concetto di ruolo e il concetto di posizione nell'analisi delle reti sociali? Prima voi avete parlato di organizzazione. Che cosa definisce una posizione all'interno di un'organizzazione? Le competenze. Ma dove sta scritto che c'è un ruolo o una posizione di un'organizzazione? Perché questo dipende dalle esigenze organizzative. Nello status dell'organizzazione stessa? Tendenzialmente dentro una norma, nello statuto potremmo dire. E le organizzazioni alle quali noi apparteniamo, l'università, la protezione civile, eccetera, tendenzialmente sopravviveranno a noi, vanno avanti anche senza di noi. Perché noi occupiamo una posizione all'interno. E quello che noi facciamo mentre occupiamo quella posizione solo in minima misura dipende dalle nostre capacità, cioè le aspettative e particolari abilità, le aspettative che ha l'altro nei confronti nei nostri confronti quando non ci conosce e poi anche dopo ce l'ha per il ruolo che occupiamo, non perché siamo alti, bassi, biondi, calvi oppure uomini o donne, abbiamo delle caratteristiche particolari. Però potremmo avere le persone che hanno evidentemente un ruolo basso, ma che hanno magari una serie di legami più alti rispetto a uno che ha un ruolo alto. Ecco, allora lei adesso con questa affermazione apre alla contingenza, no? No, ma è chiaro. Io posso anche dirle che a parità di ruolo ci sono persone più capaci di occupare delle posizioni e quindi di rispondere alle aspettative e altre che sono molto meno e altre che non sono mai fatto, diciamo così, d'accordo? Ecco, se noi ci apriamo alla contingenza, forse comprendiamo il legame, in maniera più stretta, il legame che c'è tra la posizione e il concetto di ruolo dentro lo studio delle reti. Cioè, come si fa a definire una posizione e quindi poi anche un ruolo dentro una rete sociale? La rete delle diciamo colleghe sportive, no? Dove sta suo figlio? Non c'è uno statuto comportamentale, non è che loro si sono organizzati in un modo per il quale hanno scritto all'inizio, è stato un momento costituente in cui hanno scritto le regole organizzative, no? Ecco, però in qualche modo funziona il meccanismo integrativo tra di loro. Dentro ci sono senz'altro delle posizioni e delle aspettative, per cui ciascuno si aspetta che l'altro faccia una cosa. Questo accade anche nelle relazioni amicali. Se volessimo applicare lo schema AGI, quale delle quattro dimensioni staremmo adesso in modo particolare affrontando, analizzando? Io so che tra di voi c'è una persona che ha sviluppato un amore particolare con lo schema AGI. Allora io mi aspetto che adesso questa persona, io non so chi state guardando voi, io guardo il soffitto, mi dica subito quale di queste dimensioni, mi ricordo io il significato. Queste sono le risorse, l'adattamento, attenzione, fatemi vedere tutte come rispondere, questi sono gli scopi, cioè la finalità che raggiunge un sistema o una rete, o un legame, questi sono le norme, gli standard di integrazione e questi sono i valori. Se applicassimo questo schema, che pure è assolutamente utile per studiare i ruoli, vi ricordo che Parsons era un funzionalista, le pattern variables le ha proposte lui proprio per definire i ruoli, quindi voglio dire, dove staremo qua in modo particolare? Nella I. Bravissimi! Bravissimi, ti posso assicurare che non era semplice rispondere a questa domanda. Stiamo nella I, cioè la normatività che troviamo dentro gli statuti, l'organigramma, lo possiamo trovare anche nelle reti? Sì o no? La struttura è una norma per l'azione, perché se lo è, una volta identificate le posizioni, alla posizione che qualifichiamo dal punto di vista strutturale, tu sei in quella posizione perché hai questa rete attorno a te, dobbiamo collegare anche un ruolo. Allora, questo è il nostro, diciamo, nel mirino c'è la I. Ci sono le regole, gli standard di integrazione, lì si produce un ruolo. In una struttura di relazioni, ogni attore occupa una specifica posizione che dipende dalla sua collocazione strutturale. Al concetto di posizione si lega quello di ruolo. Il ruolo è l'insieme delle norme, delle aspettative sociali che riguardano un individuo, poiché occupa una determinata posizione. Che cos'è la posizione? Che cos'è la posizione? Se noi non ragioniamo in termini relazionali, ma per esempio in termini, in termini sistemici, sì, però è. Tu puoi identificare una posizione se collochi in un sistema di coordinate un soggetto, cioè se lo definisci rispetto a qualcosa. Però questo sistema di coordinate, mamma mia, ma secondo voi questo pulisce? No, non pulisce. Ce l'aveva detto che è il professor Testa. Ah, va bene. Cioè, allora, per esempio, il sistema delle coordinate che definisce una posizione può essere costituito da caratteristiche socio-economiche, il reddito, il titolo di studio, il sesso, cioè, e noi definiamo una posizione del soggetto, quindi noi ci aspettiamo da questa persona che si comporta in un certo modo perché ha queste caratteristiche attributive, perché fa parte di una certa classe sociale, perché è uomo, perché ha una certa età, eccetera, eccetera, d'accordo? Ma se noi colleghiamo la posizione alla struttura, allora diventa importante identificare dei ruoli a partire da posizioni che sono posizioni strutturali. I concetti di posizione e di ruolo non implicano necessariamente vicinanza tra gli individui. Due attori possono ricoprire lo stesso ruolo e non essere reciprocamente connessi. Vi faccio subito un esempio. Se dovessi chiedere, ma secondo voi si può, oltre dove di cacciare? No, non si può. se guardate qui resta in rilievo quello che c'era scritto subito, quello che c'era scritto prima. No, ma sarà tipo qualcosa di fantastico. Secondo voi, proviamo così, anzi vi sfido, si può disegnare strutturalmente utilizzando un legame la posizione del nonno e quindi definire un posizionamento strutturale per poi tutta una serie di ruoli e di aspettative che noi colleghiamo alla figura del nonno come posizione? Si può utilizzare un legame per costruire una rete che disegni la posizione strutturale del nonno? Che legame è? Legame di parentela con... Beh, di parentela. Vabbè, un legame... Andiamo più nel più nello specifico, senz'altro di parentela, okay. Ma che tipo di parentela è? È un legame diretto verso... Di gene? Generazione. Sì, di generatività, potremmo dire. D'accordo, allora... N1 genera N2 che genera N3, N4 ha generato N5 che ha generato N6. Questa è la rappresentazione strutturale della posizione di nonno, senza dover fare appello a particolari caratteristiche individuali. Questo è un nonno. Se non hai questo, non sei nonno. Se non è generato, o se tuo figlio non l'ha generato, non sei nonno, non c'è niente da fare. Il ruolo di nonno esiste perché c'è questa posizione qua. Se non ci fosse questa posizione strutturale, non ci sarebbe il ruolo di nonno. Allora, dentro i gruppi che noi osserviamo, si formano delle posizioni? Noi non le conosciamo esatte, ne possiamo conoscere una, due, ma non sappiamo i gruppi mentre interagiscono che tipo di posizioni producono. Allora bisogna non solo trovarle, ma capire se dentro il gruppo che abbiamo prodotto ci sono due nonni. Ci sono soggetti che sono simili dal punto di vista della posizione che hanno dentro la rete. I concetti di posizione e di ruolo non implicano necessariamente vicinanza tra gli individui. Due attori possono ricoprire lo stesso ruolo e non essere reciprocamente connessi. Allora noi in questo modo accettiamo la sfida di definire i ruoli a partire dalle posizioni strutturali. Per cui ad una certa posizione strutturale ne associamo un ruolo. I soggetti hanno maturato delle aspettative nei confronti di questa persona perché essa occupa una certa posizione strutturale. Due o più attori hanno la medesima posizione se intrattengono lo stesso modello di relazioni con gli altri attori. Questo è il concetto di equivalenza strutturale. Quando è che due attori sono equivalenti dal punto di vista strutturale? Quando dentro una rete intrattengono lo stesso modello di relazioni con gli altri attori. Due attori sono caratterizzati da equivalenza strutturale se hanno la stessa quantità e lo stesso genere di relazioni con tutti gli altri membri del reticolo in cui sono inseriti. Perché è importante identificare delle posizioni e degli equivalenti strutturali all'interno di una rete? Ma perché se una posizione ha più equivalenti, cioè ci sono più nodi che sono equivalenti dal punto di vista strutturale a garantirne la permanenza, allora assieme a quella posizione resteranno pure i ruoli, le aspettative degli altri continueranno ad essere soddisfatte in qualche modo, d'accordo? Se un soggetto che occupa una posizione rilevante all'interno di un network non ha un equivalente strutturale, allora, e questo soggetto per qualche motivo esce dalla rete, la rete ne subisce un contraccolpo. Bisogna vedere se è capace di resilienza oppure no, ma potenzialmente subisce un forte contraccolpo strutturale. Perché? Non solo perché manca un nodo, ma perché assieme a quel nodo sparisce pure una posizione, quindi le aspettative che i soggetti trovavano soddisfatte da quel soggetto non sono più oggetto di soddisfazione. Questo è un problema nella gestione del gruppo. due attori sono caratterizzati da equivalenza strutturale se hanno la stessa quantità e lo stesso genere di relazioni esattamente con tutti gli altri membri del reticolo in cui sono inseriti. Questa è una definizione molto forte, molto stringente di equivalenza strutturale. Domanda: quali sono gli attori strutturalmente equivalenti all'interno di questa rete? A e B. A e B e D. Attenzione, e D? No, perché la rete... A e B? A e B sono senz'altro equivalenti dal punto di vista strutturale. Anche la C. No, ma anche D? No, perché D non ha un legame in meno e non ha le frecce. No, A e B. E state provando tutte le combinazioni. A e B. A e B. Siete tutti d'accordo? Sì. Perché hanno due riuscite. Aspetta un attimo. Sì, sì, perché hanno due riuscite. Sia che siano in entrata, sia che siano in uscita. Esattamente la stessa cosa. No, io pensavo solo in uscita. No, no, sì, è entrata che in uscita. Allora sì. Anche A e B, no? Cioè che E ha il legame con la F. No, è legame con la F che è in solo in uscita. Ma però c'è una uno in uscita, in entrata c'è una. Sono uguali, A e B sono A e B. Sì, d'accordo? Sì, sì. Ok. Devo delle attività di rapidomanzia matriciale. Sì, io ero così. È d'accordo anche lei? Sì, bene. Sì, sì. Allora, sì, che A e B siano equivalenti dal punto di vista strutturale, lo si vede bene dal disegno, naturalmente. E D sono quasi equivalenti. Naturalmente questo però è un tema che lasciamo lì perché adesso ci torniamo. Ma lo si vede pure dalla matrice. Perché A e B hanno esattamente le stesse righe e le stesse colonne, cioè hanno esattamente gli stessi valori sulle righe e sulle colonne. Se sparisce A per qualche motivo, il lavoro di A è garantito di mediazione, in questo caso è garantito da B e viceversa, d'accordo? Quindi, quando studiamo un gruppo, può essere molto utile trovare i soggetti che sono equivalenti dal punto di vista strutturale. Non è necessario che siano collegati tra di loro, possono esserlo naturalmente, ma non è necessario che lo siano. E naturalmente se affidiamo un ruolo ad un soggetto che ha una certa posizione all'interno della rete e questo soggetto per qualche motivo poi sparisce dalla rete che noi stiamo organizzando, sappiamo che probabilmente ci conviene fare prendere il suo posto al soggetto che è più simile dal punto di vista strutturale a lui, perché è una maggiore garanzia che lo eserciti nella stessa maniera, insomma, almeno dal punto di vista strutturale. Quindi non si vede riferimento, vedete, l'ho messo perché questo visualizzatore mi cade l'ultimo pezzo, è a pagina 172 del manuale, questo disegno e la matrice. Vediamo allora il concetto di ruolo. Se l'analisi delle posizioni consente di raggruppare attori strutturalmente simili, l'analisi dei ruoli consente di raggruppare relazioni strutturalmente simili. Allora, la posizione mi consente di capire se i due soggetti sono equivalenti dal punto di vista strutturale, ma se vedo che A e B sono equivalenti, cioè hanno esattamente lo stesso pattern relazionale e i soggetti hanno delle aspettative nei loro confronti, si comportano in un certo modo, li percepiscono in una certa maniera, probabilmente a quel pattern relazionale si associa un ruolo che questi giocano all'interno del network, ma quel ruolo non esiste se non c'è quella posizione strutturale, se non c'è quell'intreccio particolare di relazioni. La relazione nonno-nipote ha sempre la medesima configurazione strutturale e consente quindi di attribuire i ruoli di nonno e di nipote. Questi ruoli possono essere individuati e compresi solo a partire dalla struttura relazionale che li origina. Ok, quindi abbiamo capito che cosa c'entra l'analisi delle reti con i ruoli. C'entra perché identifica una posizione strutturale. C'entra perché assieme a questa posizione strutturale identifica anche un ruolo, cioè un intreccio di aspettative, di richieste che i nodi hanno nei confronti dei soggetti che occupano una certa posizione. Ok? È tutto chiaro? Bene. Adesso dobbiamo capire, e poi se al limite vedremo pure questo facendo qualche esempio, perché c'è dei software, ci sono delle procedure per trovare rapidamente i nodi che sono simili dal punto di vista strutturale e quindi che sono equivalenti strutturalmente. Dobbiamo cercare di capire come si identificano le posizioni rilevanti all'interno delle reti. Quali sono le strade che possiamo prendere per identificarle? Ok, leadership. Cosa intende? No, posizioni rilevanti non è la leadership. Col broker. Beh, può essere anche la leadership, però come si identifica la leadership l'abbiamo già visto. Come si identifica i broker anche con la community. Qui si tratta di trovare soggetti che giocano un ruolo simile all'interno della rete. Quindi sono posizioni che diventano rilevanti perché ci consentono di identificare un ruolo giocato da più persone, non necessariamente sono leader, non necessariamente leader dal punto di vista della quantità di legami in entrata, eccetera, come l'abbiamo visto finora. Allora, le strategie sono l'analisi delle intersezioni tra cerchi sociali e l'applicazione del modello a blocchi. Le posizioni rilevanti allora all'interno del reticolo possono essere individuate attraverso queste due strategie analitiche: l'analisi delle intersezioni tra cerchi sociali e l'applicazione del modello a blocchi. Vi ricorda qualche autore classico il concetto di cerchia sociale, di intersezione tra cerchie sociali? Esploso, prendeva tutta quanta la parete e quindi non gli ha detto, guarda, quante connessioni ci sono tra tutto. Avete proprio proposto un approccio iperanalitico. No, guarda, adesso voglio vedere che cosa dite di questo, perché di solito rimangono stupiti. Con tranquillità. Abbiamo detto così. Mi farete perdere il lavoro. Bene, sono molto contento. Io sono molto contento. Ma questo vedo una cosa simile, si capisce l'incidenza. Non avete mai visto una cosa simile? Noi ce l'ha, per noi è il padre quotidiano, col tocca. Poi eravate anche arrivati un po' in ritardo, no? Perché noi abbiamo finito 5 minuti. Vabbè, bene, benissimo, sono contento. Allora, vediamo l'intersezione tra cerchi sociali e poi ci fermiamo un attimo, no? Va bene? Io ho fatto prima facciamo la foto, facciamo vedere dove andiamo, però vogliamo fare la foto che c'è il maresciallo in mezzo. Bene, molto bene. Io ve l'ho detto che queste cose vi serviranno. Se provate a usarle, queste cose vi serviranno a livello tecnico. Allora, l'intersezione tra cerchi sociali. Ho visto che avete ricordato con immediatamente e con precisione l'autore classico di riferimento che è Georg Simmel, anche questo per me è punta di orgoglio e di soddisfazione. Vi ricordate un po' come funziona con i cerchi sociali? No, poi mi capita sempre che stiamo in quest'aula e faccio un disegno in questo pezzo. Abbiamo dei nodi, la famiglia, il lavoro, la scuola. Cioè, ogni individuo può essere l'età, non so. L'età è una delle cose. Che lei frequenta gruppi di coetanei? Ha preso l'iniziativa in questo. No, sono gruppi diversi. Sì, però. La casa di riposo è un. No, l'età è una variabile importante, però non è direttamente collegabile al concetto di cerchia per come la definisce Simmel. La cerchia è un gruppo di persone che condividono. L'età è una caratteristica del gruppo. È una caratteristica dell'individuo e poi mediamente del gruppo, d'accordo? Per cui se c'è un'associazione collegata all'età, cioè di giovani, eccetera, chiaramente sarà importante per definire chi appartiene a quella cerchia in modo particolare. Allora, se si individuano riconoscendo i soggetti che appartengono a cerchie diverse, se identifichiamo ogni cerchia con una specifica click N, allora per identificare la cerchia utilizziamo il concetto di click N. Vi ricordate che cos'era una click N, vero? A distanza 2, a distanza 3, eccetera, sarà sufficiente isolare i soggetti che appartengono a più click, cioè i nodi multi-clickal, per individuare le intersezioni tra le cerchie sociali. Se una cerchia è una click, un soggetto che appartiene a due click è un punto di intersezione tra le cerchie sociali. Quella è una posizione strutturale all'interno della rete, cioè il fatto che quel soggetto sia l'intersezione specifica tra quelle due click. Se un nodo è l'intersezione tra quattro click, allora sarà in un'altra posizione, ma noi abbiamo identificato una posizione attraverso un'intersezione tra cerchie sociali diverse. Ok? Ecco, qui adesso ci dovrebbe essere, se non è saltata la slide, l'esempio. Voi però non vedete il riferimento bibliografico. Stavate scrivendo adesso torno indietro, intanto se avete potete vederlo a pagina 176 del manuale, se no qua nella slide, torno un attimo indietro, stavate ancora scrivendo. E qua vediamo le relazioni diplomatiche tra delegazioni di 18 paesi all'interno di un comitato delle Nazioni Unite. Guardate di che anno è questo studio. Adesso è la normalità aggregare in questo modo. Nel 1966 l'analisi delle click. Qui abbiamo diversi click, complessivamente 11 click. Queste click sono composte da una certa quantità di nodi, set size. Il size, che oggi troviamo anche chiamato così nel saggio, è la dimensione della rete, da quanti nodi è composta. 5, 5, 5, 5, 4, 4, eccetera. Il numero delle linee è il numero delle linee che si trovano all'interno della click. Siccome queste sono delle click particolari, hanno tutte densità pari a 1. Che click sono se hanno densità pari a 1? Sono grafi completi e quindi sono le click dove n è uguale a 0. Come a 0? Cioè a 0? A 1, esatto, bravissimi. A 1, cioè sono click dove i soggetti sono tutti direttamente collegati tra loro. In questo caso abbiamo sempre densità pari a 1. Guardate, 18 paesi in un comitato delle Nazioni Unite. Questi sono i paesi. Questo è il numero progressivo, se fate caso. Diventa più alto in base alla lettera all'iniziale, quindi è progressivo alfabetico praticamente, no? E qui c'è scritto a quante click appartiene ciascuno di questi stati. Guardate qual è lo stato che appartiene a più click. Questo è molto interessante perché fa capire anche qual è lo stile di questo paese nelle relazioni internazionali. E le relazioni, le posizioni strutturali producono posizioni anche di potere, d'accordo? E la struttura è molto importante. Poi abbiamo, vedete, l'Olanda, il Regno Unito, la Nuova Zelanda, guardate qui, l'Unione Sovietica, che apparteneva a tre click, guardate con quali paesi l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica appartiene a queste tre click. Con Olanda e Stati Uniti d'America e qui invece con Polonia e Romania. Poi abbiamo l'Argentina, l'Australia, eccetera. In questo modo noi identifichiamo la capacità che ha ciascun nodo di essere punto di intersezione tra cerchie diverse. Ora, se dovessi farvi una domanda, quali sono dentro questa rete i nodi che hanno uno stile più simile dal punto di vista della connettività tra di loro? Senza rispondere dicendomi qual è il paese, ma come ragionereste su questa, su un output di questo tipo, in base a quello che abbiamo detto? Vedendo quelli che hanno più punti in comune nelle varie opzioni. Esatto. Cioè, confrontando le righe, cercando di vedere qual è lo stile connettivo più simile dentro nell'ambito di questo comitato delle Nazioni Unite. Quindi sicuramente Stati Uniti e Olanda, ma io direi pure in qualche modo, vedete, tra Irlanda e Israele, cioè ci sono delle connettività, degli stili di connettività simili rispetto alle cerchie che grazie alle loro operazioni, diciamo così, relazionali riescono a connettere, e quindi trovare questo esempio. Va bene, è chiaro? Se è chiaro e volete possiamo fare adesso 5 minuti di pausa, va bene? Scusate, quanti se volete vado a stamparli, perché è aperto le stampante, se voi vado a stamparli saggi li potete stampare, se li stampate forse è meglio addirittura. Io che vado a stampare, ma dov'è che li va a stampare? Andiamo, li guardiamo laggiù dove c'è la piazza Scandella, secondo me in 7 minuti sono qua, okay. Sono se volete così magari ce li avete, se già mi serve, per... porto 3 copie e vado a farli subito, va bene, e vedremo il dovrei. Tu hai il tablet, quando vuoi. Io ho il tablet, però lo faccio. Sono io Costerone, ma se volete prendo dopo i soldi. No, intanto 5, basta. 2 euro. se no, un po' poi facciamo i calcoli, dai. Poi facciamo i calcoli, prendi per tutto e poi facciamo i calcoli. Ho preso anche a te qua. Qual è il file? Io ce l'ho nel tablet, anche nel cellulare. Ma scusa, ma allora vediamo le fotocopie del film? No, no, no, non ho distanze sue. No, se tu ce li hai le fotocopie. Sì, sì, sì, sì. Metti a vergogna. Io lì ho le lezioni. Sono i saggi, i saggi. Ah, i saggi, no? No, sì, i saggi. Mentre hai caricato tu i saggi, non li avevo io. Sì, li hai caricati all'oggi, non so quali sono, perché io non li avevo caricati, li ho caricati prima. Sono tre. C'è lì, cioè sai, la possibilità di copiarlo proprio nella memoria, no? Nella memoria interna. Però bisogna fare un file manager. Prima creare delle copie per te, devi spostarti dal disco USB con il file manager e andare dalla memoria interna. Perché lui ha detto una copiata, tanto non è una copiata. Sì, giusto. Sì, sì, sì, sì, sì. gli appelli di giugno non erano ancora più. No, no, no, abbiamo la vostra pratica. Dunque l'inserimento. Sì, ecco, quello è solo un suggerimento che do io, che potete fare come volete. Vi può guardare dopo. Perché poi c'è il capitolo 4. Esatto. Allora qua. Diciamo che potete studiarlo, sì, dopo quello potete inserire. Potete inserire la parte. È ufficiale che è l'otto? Ah, si parlava di sì. Comunque se non è l'otto è la settimana dopo. Quindi siamo di lì. Non è stato con mio papà due anni nel giro di una settimana. Per chi vuole c'è la cioccolata fondente stradata della vita. Ah. A noi si va solo di fondente a casa. Beh, la lezione finale, diciamo questa, possiamo considerarla quella festa di Natale. Due capitoli, i primi due capitoli di Fortunca, dopo il terzo capitolo del Chiesi. Sì, se volete, potete fare così. Del Chiesi. Perché dopo io ho parlato di quello e poi delle tecniche di rilevazione. Poi facciamo il terreno. Sì, tutto. Che bisognerà dopo c'è qualcosa. E cioè secondo lei studiare prima in chiesi o studiare prima di Nicola? No, secondo lei dobbiamo studiare prima di Nicola e dopo in chiesi, oppure possiamo fare in chiesi per no, possiamo seguire le lezioni, possiamo fare comunque. Se lei guarda anche l'ordine con cui sono portato nel programma, se seguo due o non due. E quanto a mangiare già? No, sono andata a prendere la macchinetta, la carica energetica. Che cosa ho preso? Quelle cioccolatine col mou. Ah sì? Buone. Dove sono? Su. No, qua c'è. Quella Kinder che c'è il latte e il mou. Insomma, quindi avete fatto una bella figura. Ma ieri è stato così, allora lui mi ha detto lo schema lì, lui ha detto adesso mi sconvolgerò e noi siamo lì, abbiamo detto. Eravamo tranquillissimi. Gli abbiamo detto guarda che. Ma gli altri erano sconvolti invece. Gli altri non avevano. Ma sai che bello fare uno studio su quella roba lì? Loro perché c'erano tutte i narcotrafficanti con chi hanno le relazioni, quindi anche a livello. Perché poi c'è anche tutta la missione militare, là, quindi i militari sono disposti, come no, come interagiscono tra di loro. Quindi sì. Le cariche di governo. C'è abbiamo quella slide lì? Non so se posso, no, io ho chiesto solo tutto la parola. Sì, poi lo cercato. Invece no, perché ne sono, cioè lo facciamo qua. Facciamo tutto, tira su fuori in vita. Qua. Quanto hai di batteria? Se vuoi... Allora, se ne hanno bisogno gli altri, intanto io li facciamo perfetto. Assieme. Comunque, se perché no... tu ce li hai, perché te li avevo stampati io, quindi se vuoi lasciare la giovane. Ah, ok. Allora, voglio fare una cosa, vi propongo questo, guardate. Così anche si... riuscite a vedere adesso quello che io sto vedendo sul computer, vero? Perfetto. Allora, didattica. Per questo che avevano spento le luci davanti. No, no, fa un po' riflesso. Scusate, adesso spegniamo. Guardate, guardate un attimo. Io adesso farei questo. Allora, questi che abbiamo praticamente esaurito, adesso esauriamo anche Chiesi, abbiamo finito. Io farei così, guarderei questo saggio per primo, quindi se l'avete, se no io comunque lo faccio andare qua su morto. E fatela pure, portate tanto, io diciamo non mangio più. Poi qui in mezzo, visto che lui ha le sedie, alle 6 deve andare via. Alle 6 deve andare via lei, vero? Sì, sì, sì. Allora, qui in mezzo ci infilerei un altro esempio con una matrice di affiliazione pratico che vediamo sul monitor. Ok? Se volete, oppure possiamo utilizzare un tipo di matrice e poi vediamo queste altre due ricerche qua. Ok? Bene. Allora, così abbiamo fatto. Tutta quella roba lì. Come? Tutta quella roba lì. Ma non è mica tanto, ci sono due libri che si aveva fatto, questi sono due capitoli, saranno 40 pagine, e questi sono dei saggi da una pagina 1129 590 e poco. E dobbiamo relazionare in inglese, ovviamente. Oppure in tedesco, anzi io parlo molto bene francese. Non lo so, però se vuole in inglese, tedesco e spagnolo, è anche in arabo. Allora, siccome, ecco, dovevo trovare, sa perché la ringrazio, davvero con cuore in mano, dovevo trovare uno di voi da presentare per farlo leggere adesso in aula, adesso con i saggi, e visto che lei si propone così, l'abbiamo trovata. Purtroppo non ho niente in arabo, però da farlo leggere. Non capiremo, però ci piace. Va bene, allora, però, siccome sono tante cose e gli articoli scientifici sono un po' diversi da leggere rispetto ai manuali, la mia idea era, piuttosto che presentarli così, che se volete lo possiamo fare alla stessa maniera, era di leggerceli insieme adesso, vi faccio vedere gli aspetti più importanti, come capirli, così quelli fatti qua. D'accordo? Se volete. Se no andiamo standard così con le slide. Si può fare uguale, eh? Scegliete a voi le schwa. La prima, siete tutti d'accordo con la prima? Anche lei? Sapete che se non è d'accordo con proprio, qua non si muove la voce. Ok. Io sono d'accordo. Ah. Sono d'accordo. Je vous en remercie beaucoup. Benissimo. Allora, concludiamo con i modelli a blocchi. Consente il modello a blocchi, allora, ci consente l'individuazione sistematica dei nodi che si trovano in posizione di equivalenza strutturale. Me li immagino già, quando sarete nelle stanze delle analisi, delle organizzazioni, arrivate voi riconosciuti a livello internazionale, arrivano questi e cominciano con le reti, niente li può stupire, d'accordo? Allora, questo è un aspetto come? Ecco, sono arrivati i pescatori. Allora, consente l'individuazione sistematica dei nodi che si trovano in posizione di equivalenza strutturale, cioè noi con questi modelli di analisi, che ci sono anche su YouSign e altri programmi, troviamo subito i nodi che sono simili dal punto di vista delle connessioni. Per blocco intendiamo un insieme di nodi che si trovano in una posizione di equivalenza strutturale e che quindi tendenzialmente giocano lo stesso ruolo, esatto. Tali nodi, purtroppo non si vede, allora facciamo così. Tali nodi hanno righe e colonne identiche o molto simili. E qui veniamo a una cosa che aveva detto prima il vostro collega, che aveva proposto un'equivalenza anche tra C e D, erano i due nodi che erano molto simili ma non identici, d'accordo? Allora, tendenzialmente si attenua questa necessità, cioè il fatto che siano identiche, se no di fatto su un network molto grande è impossibile trovare due attori che siano perfettamente identici, ma si procede nell'analisi delle correlazioni tra le righe e le colonne di tutti i nodi tra di loro per cercare di trovare quelli che sono più simili complessivamente. In quale matrice? La matrice di adiacenza, cioè la matrice che incrocia i nodi con i con le di incidenza. Che cosa può essere adiacente a qualcos'altro? Un nodo può essere adiacente ad un altro. Quindi la matrice di adiacenza è la matrice nodi per nodi, quella che abbiamo creato ieri a partire dalla sua matrice di affiliazione, ok? È la matrice di adiacenza. Bene. Per l'individuazione dei blocchi si utilizza come input la matrice di adiacenza tra i nodi che costituiscono il reticolo e poi si procede con un meccanismo iterativo, cioè si ripete il calcolo dei coefficienti di correlazione tra le colonne della matrice, ok? Per capire quanto sono simili tra di loro le colonne della matrice. Si utilizza questo coefficiente, che è appunto un coefficiente statistico, che ci dice che peso c'è, quanto pesa la relazione tra due grandezze, quanto sono simili tra di loro. Infine si riorganizza in blocchi la matrice accostando i nodi strutturalmente simili, cioè mettendo vicini tra loro i nodi che sono più simili, cioè che hanno un pattern relazionale tra di loro simile. Come si chiama questa operazione di ristrutturazione della matrice in base a un qualche criterio che ci è utile per la ricerca? La permutazione. Non c'è. Abbiamo parlato della permutazione e dell'elevazione a potenza delle matrici. Si ottiene così una matrice binaria M per M, che chiamiamo matrice immagine, in cui M è il numero dei blocchi estratti, cioè i blocchi sono gli insiemi di nodi che hanno una posizione simile dal punto di vista strutturale. Poi vedete qua sotto preparato un esempio. Tale matrice contiene informazioni sulle relazioni tra i blocchi. In che relazioni sono le posizioni tra di loro all'interno della rete? E quindi che relazioni ci sono tra soggetti che condividono posizioni diverse a partire dalle posizioni? Questa è la domanda a cui risponde la matrice immagine. Va bene. Vediamo l'esempio. Vedete, questa è una matrice delle relazioni, qui siamo a pagina 187, una matrice delle relazioni di simpatia. Questa è già stata permutata, quella che la 2A è una matrice di adiacenza, non è niente di che, è una matrice di adiacenza, come tutte quelle che abbiamo visto finora, che incrocia i nodi con i nodi. Vedete che la diagonale è vuota, non c'è niente nella diagonale, no? Ok, in questa matrice qui abbiamo dei soggetti, vedete, soggetto A, B, C, D, eccetera. Sono già stati messi vicini tra di loro i soggetti che hanno le righe e le colonne più simili. Il soggetto A ha le righe e le colonne molto simili al soggetto B, molto simili al soggetto C, d'accordo? E molto diverse invece dal soggetto F, per esempio, o dal soggetto E, o dal soggetto L, d'accordo? Sono nodi che hanno un pattern relazionale più simile tra loro. Quindi, quali sono i soggetti equivalenti strutturali di A? B e C, esatto. E i soggetti equivalenti strutturali di J? J, I. I. Anche H potrei dire, per magari una... No, H. Ah no, perché ci sono sotto le altre relazioni, però no. H è un nodo? È un nodo isolato, d'accordo? Ok. Questa matrice qua, sostanzialmente, permutata in questa maniera, ci consente di far emergere diverse posizioni. Quante sono le posizioni strutturali complessivamente trovate da questa matrice? Le posizioni sono condivise da soggetti che sono equivalenti dal punto di vista strutturale. Quante sono le posizioni? Dice le posizioni di A, B e G, in teoria. Allora, i nodi complessivamente sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 nodi. Questi nodi, in base alle equivalenze strutturali che hanno tra loro, possono essere raggruppati in alcuni blocchi diversi, cioè in alcune posizioni diverse. Quante sono le posizioni? 6x6, sono 6 blocchi. Io direi che sono 6, perché lei ne vede 8? Perché ci sono anche le altre due. KL, sì, vabbè. Ma sono 6 sulla 6 sull'altra. Ah, l'abbiamo contato due volte. Ho contato la K e la L. KL fanno un blocco assieme, vedete sì. Righe e colonna. MN ne fanno un altro, sono due. I e J ne fanno un altro. F, G e H sono un altro blocco, D e E un altro blocco e A, B e C un altro blocco. Lei aveva contato due volte. Ah, ecco, ma avevo capito. Sì, d'accordo, lei l'ha contato due volte, va bene. Quindi sono 6 complessivamente. Sotto abbiamo la matrice delle relazioni di scherzo reciproco, pure questa è una matrice di adiacenza. Vedete, A è, qual è l'attore più, diciamo, simile a G dal punto di vista dell'equivalenza strutturale? È probabilmente l'attore F. Queste matrici, come pure la matrice delle relazioni di antagonismo, eccetera, sono tutte uguali, sono poi state trasformate, queste che però naturalmente non si vede un pezzo, che sono le matrici immagine dove voi ritrovate i blocchi che trovate all'interno di queste matrici e le relazioni tra i blocchi. Vedete in alto a sinistra, vedete la relazione naturalmente nel blocco 1 con se stesso, perché quei nodi sono tutti collegati, ma troviamo un legame anche tra il blocco 1 e il blocco 2, ci sarebbero i legami con D ed E, non so se riuscite a vedere, ma altrimenti non si vede questo pezzo. Poi troviamo dei legami con KL ed ecco l'1 da questa parte. Questa sarebbe la matrice immagine corrispondente a quella matrice di adiacenze, praticamente è una matrice che incrocia le posizioni tra di loro. Dentro ogni blocco abbiamo soggetti che sono equivalenti dal punto di vista. Però lì è stato raffigurato il blocco allora. Esatto, qui c'è una B che purtroppo voi non riuscite a leggere. Ah, okay. Quello che stavo allora è raffigurato con la matrice di sotto il blocco B1, B2, B3. Cioè quello che io lì ho scritto, ho aggiunto a matita, l'insieme dei nodi. Se poi lei trova almeno un legame tra B1 e B2, vede B2 sulle colonne sarebbe D ed E là. Se c'è almeno un legame, allora segna un legame anche tra il blocco 1 e il blocco 2. Non essendoci un legame tra il blocco 1 e il blocco 3, vedete il blocco 3, F, G e H, allora qui abbiamo un 0 e via discorrendo. Insomma, è un modo per semplificare, vedere a livello di matrice il tecnicamente come opera. Abbiamo detto calcolando dei coefficienti di correlazione, naturalmente io lo do solo. Lo do soltanto per voi come informazione, se vi dovesse venire voglia di vedere cos'è un coefficiente di correlazione. Questa è la formula per calcolare a livello statistico in qualsiasi parte. Guardate che abbiamo dei dati numerici. Sì. Allora, questa, adesso, il coefficiente di correlazione. L'analisi della varianza, la formula della varianza è questa, senza. Queste le ho messe perché il coefficiente di correlazione è il rapporto tra la covarianza tra x e y, cioè due variabili tra le quali guardiamo la relazione statistica, e il prodotto delle deviazioni standard della variabile x e della variabile y. Ok? Allora, questa qui è la formula della covarianza, cioè il numeratore. Vedete? La sommatoria del prodotto tra il valore di yi e questo che cosa vuol dire questa lineetta qui sopra? La media e xi e x meno x medio, quindi i prodotti delle differenze. la sommatoria tra i prodotti delle differenze del variabile diviso n, che è il numero dei casi, e la deviazione standard è la radice quadrata della varianza. Il coefficiente di correlazione è molto importante perché, per esempio, a differenza del coefficiente di regressione, che pure si può utilizzare per valutare le relazioni tra due grandezze, non risente dell'unità di misura delle variabili, proprio perché si calcola in rapporto alle deviazioni standard. Vi ricordate nella entusiasmante lezione sulla standardizzazione della variabile che abbiamo trovato proprio nelle deviazioni standard, questa potenzialità, la capacità di rendere confrontabili con unità di misura grandezze che non lo sono? Ecco, in questo caso il coefficiente di correlazione è molto potente perché vi dice che relazione c'è statisticamente tra due grandezze, per esempio il reddito e l'età di una persona, sono due grandezze metriche, possiamo calcolare il coefficiente di correlazione e vedere se alla crescita di questa se crescendo una grandezza cresce anche l'altra, avremo una correlazione positiva, oppure se al crescere dell'età diminuisce il reddito di una persona, che visti gli ultimi ragionamenti sulle pensioni in Italia nei prossimi anni è una correlazione negativa che ci dovremmo aspettare di trovare. C'è una relazione, ma è di segno negativo, cioè al crescere una grandezza decresce l'altra e viceversa. Ok? Ma questo è semplicemente per voi, può essere utile perché se volete sapere che cos'è, io intanto ve le porto qua senza che dovete poi andare a cercarle da qualche parte. Faccio pure. Adesso, allora, mentre copiate, vi siete attrezzati con il materiale, sì, con il materiale cartaceo, eccetera. Una copia a testa, no? Aspetti, professore. Aspetta. Quante copie abbiamo fatto? Tre. Chissà, ce le faccio vedere. Tutte e tre. Okay. Grazie, sa. Hai fatto uno per ognuno? No? Sì, una copia. Allora, ci siamo? Bene. Passiamo allora alla social network analysis applicata allo studio degli eventi catastrofici, potenzialità conoscitive e indicazioni per l'intervento sociale. Qui, non so quanto valga la pena registrare adesso, visto che leggeremo e commenteremo il saggio. Allora, io prenderei innanzitutto... Ma aveva detto qualcosa lei? Ho detto che ha appena fatto un lavoro degli eventi sociali. In realtà non è eventi sociali. Ah, ho detto eventi sociali? Sì. Beh, ma gli eventi sociali tendenzialmente possono essere catastrofici. Degli eventi catastrofici. Allora, se ci siete, io guarderei il primo saggio in ordine, che è il saggio, eccolo qua, di Varda, Forget, Banks e Contractor. Questo saggio è un saggio importante perché fornisce un inquadramento metodologico a, diciamo, i concetti che abbiamo visto finora. Questo saggio qui è un saggio che riporta poi degli esempi tratti dalla l'uragano Katrina, che pare sia stato l'uragano più grave per i danni economici che ha causato negli Stati degli Stati Uniti. Ha ricordato il Mississippi, la Louisiana, quasi 2000 morti, 1833 credo morti, insomma è un evento molto molto molto catastrofico. Allora qui vi consiglio di andare subito a pagina 12 nel paragrafo sul The Network Paradigm. Allora, che cosa cercano di fare qua? Ci siete? Allora, qui gli autori introducono immediatamente un tema molto, molto importante, cioè inquadrare. Siccome questo è il tasso, ti ho detto segna quello che vuoi, perché tu la, cioè, fai la punti che dici. Allora, qui gli autori individuano subito una importante necessità, cioè... Ah, ma voi non lo vedete perché io non ho fatto il cambio del computer. Cioè, quello di inquadrare lo studio delle reti in ambito di disastri, in occasione di disastri, a partire dal livello individuale e dal livello organizzativo delle comunità. Ok? Quindi sostanzialmente, ai nostri occhi, questo significa inquadrare lo studio delle reti sia rispetto a, diciamo così, le reti delle persone, dei soggetti coinvolti nell'ambito dell'evento catastrofico, che rispetto alle reti delle organizzazioni. Questo ci permette di affrontare il tema dal punto di vista generale e fornire e avere uno strumento per inquadrare anche i tipi di dati che dobbiamo raccogliere e passare da un livello di analisi generale a un livello di analisi particolare. Infatti il paragrafo successivo serve proprio a fornire un framework per la ricerca sui disastri. Allora, vedete, a pagina 13, in fondo alla pagina, si comincia a parlare di questo modello, il modello IOSP. In, out, seeker, e provider, cioè un modello che tiene in considerazione lo spostamento in entrata e in uscita degli aiuti dai coloro che ricevono, che cercano gli aiuti, e coloro che invece li forniscono. Trovate una, diciamo, rappresentazione di questo alla fine di pagina 14, e io vi chiedo subito di fare una correzione sul disegno che trovate, perché probabilmente per ragioni di stampa è saltato, vedete sotto, non, questo è il saggio che abbiamo tutti scaricato, ma sotto Seekers, che va al plurale innanzitutto, qua, plurale, dovete aggiungere providers. Proprio sotto? Eh sì, esatto, sono le caselle che si trovano sotto, ok? Dopodiché abbiamo l'indicazione dei quadranti, che se volete io vi posso suggerire già di segnare. L'incrocio tra in e seekers è il primo quadrante, quindi ci metterei un 1, o un primo numero romano. Tra seekers e out è il secondo quadrante, per come gli autori presentano. Providers, terzo quadrante in e quarto quadrante in out. Allora, leggiamo adesso le caratteristiche generali di questo di questo modello. Questo framework generale per la ricerca in ambito, diciamo, di disastri e di emergenza ha come suo pregio quello di consentire di classificare l'analisi delle reti. Ok? Allora, ci legga lei il quadrante 1. In seekers, network members who are in disaster area seeking something from others in the network. For example, this may include disaster victims seeking post-disaster research assistance. Ok, qui abbiamo praticamente identificato i primi attori che vanno presi in considerazione nell'ambito dello studio delle reti. Cioè, sono le vittime del disastro che stiamo studiando, e queste vittime devono essere prese in considerazione considerazione rispetto alle, alle loro, a, diciamo, alle necessità che hanno. Poi seekers out, secondo quadrante, qui abbiamo, va, questi li faccio leggere, via, diamo, diamo onore. Network members who are out of disaster area, seeking something from the network. For example, this could include organizations that are seeking assistance to provide resources for disaster prevention. Ok, chi c'è qua? Chi sono questi? Quelli che stanno fuori dall'area. Quelli che stanno fuori dall'area, ma comunque hanno un bisogno da soddisfare dopo che c'è, quindi fuori nell'esempio dal Mississippi, dalla Louisiana, ma dopo l'evento catastrofico hanno una necessità da soddisfare. L'esempio che si fa è quello delle organizzazioni, per esempio delle ONG o delle organizzazioni di privato sociale che vogliono intervenire per sostenere, ma devono raccogliere, non, devono raccogliere delle, delle risorse, d'accordo? Bene, terzo quadrante, providers. In providers, okay. Network members who are in the disaster area, providing something to other network members. For example, this could include rescue workers who are located in the disaster zone, trying to provide modes of transportation to victims to leave the area. Allora qui abbiamo coloro che possono fornire un aiuto e si trovano all'interno dell'area e poi alla fine, quarto quadrante, glielo, no anzi, concludiamo, poi non le faccio leggere più niente. Out providers, sì. Network members who are out of the disaster area, providing something to the other network members, for example, hospitals that are treating disaster victims once they leave the disaster zone. Ok, qui abbiamo dei, dei soggetti che possono fornire aiuto, che vogliono o addirittura che debbono fornire aiuto e che si trovano più fuori dell'area riguardata dal disastro. Allora, e continuando a osservare questa, questo grafico, questo disegno che avete in fondo a, a, a pagina, pagina 14, troviamo degli aspetti che devono essere qualificati al loro interno. Innanzitutto, in alto a sinistra, trovate i tipi di soggetti che possono essere i network members di cui parlano gli autori nei quattro quadranti, che quindi si possono trovare all'interno o all'esterno del contesto, ma che sono soggetti qualitativamente diversi. Gli individui, da una parte, i gruppi o le comunità. Gli autori qui parlano di individui, comunità di analisi, ok? Effettivamente noi abbiamo parlato dei legami comunità di analisi, io continuo a ritenere che sia più corretto parlare, parlare di legami comunità di analisi in ogni caso. Dica, threading significa scenari, perché stiamo guardando ospedal e ci sono scenari di che stanno sì, trattando sì, diciamo, prendendosi cura, si sta veramente trattando le vittime del disastro. Allora, quindi vabbè, al di là di questa pianificazione di carattere più, più che altro metodologico, qui noi sappiamo che i, i soggetti, noi l'abbiamo vista così la faccenda, possono essere degli individui che si trovano all'interno o all'esterno della, della, della rete, oppure possono essere dei, dei gruppi, cioè delle organizzazioni, e vedremo adesso, i prossimi due studi riguardano gli individui da una parte e le organizzazioni dall'altra. Richiamo la vostra attenzione a pagina 16. Scusi, gruppi e comunità sono... Ma dunque, nella, nel saggio... Non c'è una grossa differenza. Se lei va a pagina 17, c'è la parte in cui si tratta di comunità. Vedete, questo capoverso qua. Ok, qui gli autori spiegano. Non è importante soltanto caratterizzare gli individui, i gruppi, le loro comunità di contesto, ma la comunità stessa può divenire una terza unità di analisi. Cioè, qui sostanzialmente si dice che i gruppi, cioè tra le organizzazioni, che sono trattate un po' come sinonimi, e gli individui, possono essere considerati anche come membri di una comunità più ampia, comunità che per esempio può fornire attraverso il terzo settore, le forme di civismo, un sostegno, d'accordo? E quindi potrebbe anche essere la comunità un oggetto a sé stante di analisi, per esempio, come ha reagito la comunità aquilana come tessuto connettivo generale al terremoto, come la comunità indiana, quali sono state le differenze rispetto a le condizioni che hanno creato per gli attori individuali e gli attori organizzativi, collettivi all'interno. In questo senso, dal punto di vista analitico, però, vale la distinzione tra soggetto individuale, l'individuo e soggetto collettivo, le organizzazioni e i gruppi, per come l'abbiamo vista fino adesso noi. Richiamo la vostra attenzione a pagina 16, se potete arrivarci. A pagina 16 voi trovate l'operazionalizzazione di alcuni modelli e misure utilizzabili per l'analisi delle relazioni tra individui, gruppi o nelle comunità. Vedete, abbiamo modelli tipici che noi cerchiamo dentro i legami indiretti, la frequenza, la stabilità, la multiplexity che trovate in colonna e la molteplicità, cioè si tratta di la forza, la direzione, la reciprocità. Li conoscete già i significati di queste grandezze? Come no? Sì, intensità, la direzione, ma anche la frequenza è una caratteristica che noi abbiamo trattato come una misura dell'intensità, d'accordo? Come ad esempio la forza del legame, cioè il peso, poi le misure relative agli attori individuali, degree, il grado, l'in degree, il grado in entrata. Quando è che possiamo calcolare il grado in entrata? Quando ci sono dei grafi diretti. Ok, l'out degree, il range, cioè la diversità dei soggetti, la closeness che abbiamo visto, la betweenness, le misure di centralità, il brokerage, eccetera. E poi ci sono delle misure che invece noi utilizziamo per descrivere complessivamente il network, e sono diverse perché sono misure sintetiche che noi attribuiamo a che cosa? Non ai singoli soggetti che lo costituiscono, ma all'intera rete, ok? Quindi all'intera rete di nodi individuali o all'intera rete di nodi collettivi. Ce n'è una qui in modo particolare alla quale abbiamo dedicato un'attenzione specifica ieri. Qual è? Esatto, la centralizzazione, ma trovate anche la presenza dei componenti, trovate anche la densità, il size, cioè la taglia complessiva della rete. Ok? Allora, alla pagina 17 trovate il secondo punto, quindi abbiamo visto A, i tipi di soggetti, le unità di analisi, come le chiamano gli autori, B, i livelli di analisi. Se guardate adesso il disegno che trovate in basso, è sempre di nuovo la stessa cosa, trovate evidenziati dentro a ogni cella le alternative ego-socio, cioè il livello egocentrico e il livello sociocentrico. Voi sapete già di cosa si tratta, vero? Sai, quando io faccio questa domanda è chiaro la risposta. Livello egocentrico. Esatto. Ego o personal network analysis, cioè abbiamo tanti individui centrati, dall'altra parte whole, meglio whole sarebbe, o full o socio centric analysis, cioè l'analisi dei gruppi completi. Esatto, dei gruppi completi, non nel senso che sono grafi completi, ma noi possiamo determinare esattamente. Allora, in questa parte avete un richiamo ed è molto interessante vedere innanzitutto quali sono le domande che emergono a livello egocentrico, cioè quando studiamo delle reti in situazione di disastro, quali sono le domande che come ricercatori ci dobbiamo porre rispetto a livello egocentrico? tendenzialmente quindi agli individui. E trovate queste domande come question 1, 2 e 3 alla pagina 18. Ecco, se volete andiamo avanti così nella presentazione del saggio, d'accordo? Le domande sono: prima domanda, quali tipi di reti, routing networks, lo vedremo poi anche in un altro saggio, sono le reti che sostanzialmente esistono prima rispetto al disastro, ok? Quali tipi di reti rutinarie, già presenti, eccetera, distribuiscono risorse in situazioni non rutinarie? È molto interessante questa domanda, Cosa si può utilizzare? L'evento disastroso è una situazione non rutinaria, cioè è eccezionale. Poi troveremo anche una definizione di cosa è dal punto di vista. Allora, ci sono delle reti che funzionano anche in questa situazione, delle reti preesistenti che continuano a funzionare. Che caratteristiche hanno queste reti? Il saggio che vedremo adesso, concluso questo, è proprio su questo argomento qua. Quali sono le caratteristiche delle reti rutinarie che funzionano anche in situazioni non di routine? Ok? Seconda domanda: qual è la dimensione della rete di sostegno informale di mobilitata durante una seria crisi personale? Deve essere grande? Deve essere piccola? Se è grande, in che cosa può essere di aiuto? Se è piccola, invece, in quali altri modi lo può essere? Allora, questa è utile, perché se voi studiate questo elenco di domande, le reti in situazione di disastro, potete proprio impostare lo studio a partire da queste domande, che vi consentono di identificare alcuni temi, che non sono tutti, no, naturalmente non sono solo questi importanti, ma molto importanti nell'ambito delle reti. Poi, how do people use their social networks during a mortal threat? Le persone come le usano? A un rischio di morte? Come le utilizzano? Tra parentesi trovate, se volete potete approfondirlo, dei saggi in cui si è studiato in particolare quel tipo di relazione. Nella pagina successiva, pagina 19, trovate invece le domande collegate a livello sociocentrico, cioè in questo caso a livello globale, di sottogruppo, a livello di un'analisi di gruppo, non più dell'individuo. Domanda 4. Gli attori centrali all'interno di una rete possono essere utili come mezzi per accrescere la diffusione delle informazioni? Voi stessi avete sottolineato questo aspetto quando abbiamo fatto degli esempi nelle scorse settimane. La circolazione delle informazioni è molto importante in questo momento. Allora, gli attori centrali in che modo possono essere utili in questo? E poi c'è una domanda sulla la ridondanza rispetto ai legami nelle reti. Può essere ridotta questa ridondanza per produrre mezzi di comunicazione più efficienti dal punto di vista temporale? La ridondanza che cosa significa? Quando è che una rete presenta della ridondanza, secondo voi? È superiore alla necessità. Esatto. Dal punto di vista strutturale questo che cosa vuol dire? Che ci sono più legami, la stessa funzione. C'è possibilità che la stessa cosa si ripeta. Questo vuol dire innanzitutto? Cioè? Che ci sono, lei cosa stava dicendo? Sono più legami di quanto... Di quanti fossero, per esempio, per arrivare al vostro collega è sufficiente, se non siamo direttamente collegati, che ci sia un legame. Se ce ne sono due di mediazione, uno dei due è ridondante rispetto all'altro. Le reti ridondanti sono anche quelle dense, però dal punto di vista complessivo. Allora, come poi vedremo, le reti dense sono molto importanti per superare le situazioni di necessità, le situazioni di disastro, però non sono quelle, non sono più le più efficaci dal punto di vista di operativo complessivamente nell'ambito del gruppo. Vedete che è una faccenda complicata, bisogna però tenere presenti tutti questi aspetti nello studio. Qui cambia il punto di vista, il punto di vista è il punto di vista del gruppo, dell'organizzazione, non necessariamente coincide con quello del singolo o con la somma dei punti di vista dei singoli all'interno. Poi, domanda 6, le reti che emergono durante una situazione di disastro resistono nel corso del tempo? Queste reti si formalizzano e perdurano superato il momento in cui i soggetti sono oggetto di cura e di attenzione da parte di tutti dopo il disastro, oppure no? Che fine fanno queste reti? E che funzioni? Lei dice di no. Ecco, se rimangono però ci potremmo chiedere che tipo di funzioni svolgono? In effetti una ricerca che adesso vedremo va nella linea di quello che diceva la vostra collega, non nel senso che non restano, ma dimostra che se è più alta nella rete di sostegno la presenza di quelli che chiamano core networks, cioè le reti primarie per gli individui, è anche più efficiente la rete nella fornitura di sostegno. Molto interessante. Quindi non solo non restano, ma ci dobbiamo anche chiedere quanto siano utili se uno ce le ha già. Non è detto che siano sempre utili, possono essere utili se uno non ne ha, ma se ne hai già, ecco, bisogna vedere che tipo di utilità hanno. Poi, how important is reciprocity? Quanto è importante la reciprocità nel coordinamento e nella comunicazione in situazione di emergenza all'interno della rete? Poi, il livello di centralizzazione all'interno di una rete che deve assumere delle decisioni è collegato alla capacità degli attori, dei membri della rete di prendere decisioni in maniera efficiente dal punto di vista temporale, oppure no, o una faccenda organizzativa. E infine, i membri della rete che sono strutturalmente equivalenti hanno dei modelli di comunicazione simili prima e dopo il disastro? E adesso sapete cosa significa membri della rete strutturalmente equivalenti, esattamente il concetto di equivalenza strutturale che abbiamo appena visto. Il terzo punto riguarda i tipi di legami da considerare. E li trovate alla pagina successiva. Lì vedete che c'è la presentazione del grafico, no? del disegno, ed è messa in particolare rilievo con quel tratto punto il cuore del disegno, dove sono identificati i tipi di legami. Quindi leggiamo l'inizio proprio della leggiamo l'inizio. Ascoltate il tema, è un tema che forse vi è familiare. Se non vi è familiare, io esco dall'aula immediatamente dopo averlo scoperto. Legga. As in all social network analysis, the identification of the various types of relationship is the root of understanding the connections between nodes. At each level of analysis, connection can be categorized into communication, advice, kinship, friendship, professional, worker-related, membership-based, example, clubs, gym, school, religious, proximal, example, neighbor, and the various types of resource sharing. Ok, poi gli autori che dicono, bene, dentro questo bel modellino che stiamo creando, a un certo punto bisogna che voi scegliate quali legami studiare. Ok, quella che propongono è una tipologia o un elenco di legami? Tipologia, no, non è una tipologia. Per fare una tipologia dobbiamo identificare almeno due dimensioni di un concetto e costruire una tabulazione incrociata relativa a quel concetto. Allora abbiamo dei tipi. Se non riusciamo a fare questo lavoro qua, non abbiamo mai una tipologia. Che cos'è questo? Dica. No, stavo sfruttando il discorso. Tipi di legami. Secondo voi, perché c'è questo elenco. Adesso io vorrei che voi ragionaste, no? Verificare se esistevano già precedenti. No, va bene, questo va bene, d'accordo. Però quel problema è scegliere i legami che vogliamo studiare. Types of ties, ok? Quali sono i legami che vogliamo studiare? Bene, perché c'è un elenco di questo tipo? Perché sicuramente ci saranno stati prima delle... cioè, questi sono imprescindibili. Sì, ma io parlo della necessità di categorizzare il ricercatore e non di procedere in maniera incrementale con gli elenchi. Qual è la frase, la parola che ha il secondo rigo di questo capoverso? Come tutti l'analisi di no, no, la parola che apre il secondo rigo del capoverso. Leves. Ma come leves? No, relationships. Cioè, qui legame e relazione sono considerate la stessa cosa. Può essere utile per noi questo approccio, considerarli uguali? O abbiamo visto che conviene invece considerare il concetto di relazione multidimensionale, poi identificare dei legami indicatori all'interno. Vi ricordate che abbiamo parlato di questo? Ok? Allora, vedete, qui c'è un elenco di diversi legami, i quali sicuramente possono essere utili in situazioni di bisogno, però lo sforzo che noi dobbiamo fare è quello di sceglierne alcuni che siano categorizzabili dentro le dimensioni A, G, I, L che abbiamo identificato. Per esempio, il legame di... proviamo a guardarli uno alla volta. Communication, advice, kinship, friendship. Allora, communication, advice, io li metterei qua. Kinship, lo metterei qua. Cos'è che c'è poi? Friendship è un legame integrativo, d'accordo? È un tipico legame I. Poi professional, cioè work related, membership based, sono tutti tipi di legami che possiamo inserire dentro la condivisione di qualcosa. Quindi vedete, ci sono molti legami in L e per esempio manca un legame in G. Per esempio un legame che riguarda l'esercizio di che cosa? Ricordate la tipologia A, G, I, L e la classificazione dei legami? La forza, dei legami gerarchici che prevedono qualche tipo di esercizio di autorità nei confronti dell'altro. E va bene, insomma. Ecco, questo è un po' il problema che questi autori qui mettono in evidenza. E poi abbiamo, per concludere su questa parte, il paragrafo successivo che comincia a pagina 21, la natura dinamica dei disaster networks, bellissima questa no? Questo modo di riferire i termini, perché a questo punto vedete abbiamo toccato tutti gli aspetti importanti del loro modello analitico, cioè abbiamo toccato i livelli di analisi, abbiamo toccato la differenza fra ego e sociocentrico, i tipi di legami, quindi abbiamo scandagliato. E qui gli autori identificano a partire dal secondo capoverso, quindi se volete potete metterci un segno di particolare interesse, quattro configurazioni reticolari collegate alle situazioni di disastro. Social networks change in four ways over the course of a disaster. E qui abbiamo la prima configurazione, molto, molto interessante. Le reti sono innanzitutto caratterizzate dalla presenza di pre-disaster network, cioè di reti che esistono prima del disastro. Allora, che cosa identificano le ricerche che usano un po' questo approccio rispetto alle reti? Ok? Cioè, vedete, quelle che esistono prima che si verifichi il disastro. I mutamenti in queste reti sono tipicamente lenti e non sono, diciamo, in maniera particolare collegabili al raggiungimento di uno scopo. Cioè le reti di sostegno che esistono prima, nel loro andamento naturale, no, avrebbero una tendenza a modificarsi molto lenta. Noi ogni quando modifichiamo sostanzialmente la nostra rete amicale, può capitare, ma avviene con lentezza, d'accordo? Guardate questo fenomeno molto importante. Banks, che è uno degli autori di questo saggio, e Carley, hanno descritto alcuni modelli che riguardano questo mutamento. E il processo is largely one of infilling the social networks, cioè che cosa succede in queste reti? In che modo reagiscono? Il processo si chiama infilling, cioè c'è un effetto di riempimento. Gli amici degli amici diventano anche i nostri amici. Quindi c'è una tendenza delle reti a infittirsi. Molto interessante questo, è un andamento identificato, quindi vuol dire che quando assistiamo a un fenomeno di questo tipo possiamo aspettarci di trovare un dato sovradimensionato rispetto alla normalità, cioè alla situazione pre-disastro delle reti. Poi, durante un disastro abbiamo molti social network che si formano ad hoc, cioè che nascono proprio. E tra chi? Tra quali soggetti nascono queste reti? Tra seekers and providers, ovviamente, sia dentro che fuori l'area. Quindi il disastro è un'occasione per la nascita, per la produzione di legami sociali. Naturalmente questo per un analista strutturale è qualcosa che aumenta la complessità in una maniera incredibile, cioè qualcosa della quale bisogna in qualche modo tenere conto, un fenomeno che bisogna analizzare, è un bene naturalmente che succeda, però sta a significare che la rete diventa molto complessa dal punto di vista strutturale, okay? E qui abbiamo un esempio che mi siete poi venuti anche, mi tornate in mente alle prime lezioni quando parlavate proprio di queste esperienze, nel penultimo libro, for example, temporary shelters, cioè i ripari temporanei, quelli che si costruiscono dopo, tipicamente mettono in collegamento soggetti, persone che non sono precedentemente collegate tra di loro, ok? Poi abbiamo gli emergent networks, alla pagina successiva, cioè quelli caratterizzati da nuovi legami, nuove relazioni sociali, ma anche nuove funzioni, nuovi obiettivi, nuovi scopi, eccetera. For people who have lost, per le persone che hanno perso i loro network precedenti, queste sono, che non sono capaci di riconnettersi con queste persone. Le reti emergenti sono la strada per tornare ad uno stato di normalità, ok? Infine, stationary ties, cioè le reti che non subiscono nessun effetto a causa del disastro, che rimangono uguali. Quindi abbiamo delle reti che preesistono, che possono modificarsi, come crescendo in intensità e in coesione, delle nuove reti che si aggiungono alle reti precedenti come secondo orizzonte, come secondo possibilità, delle reti che sostituiscono completamente reti precedenti che non esistono più, e infine dei soggetti che non subiscono nessun tipo di modifica rispetto alle loro relazioni. E poi trovate più avanti nel paragrafo precedente le fasi che hanno in modo particolare che riguardano in modo particolare gli uragani, che gli uragani essendo anche previsti in parte hanno anche una fase iniziale precedente al disastro che riguarda già la mobilitazione e la preparation phase, cioè la mobilitazione delle reti durante la fase iniziale. Successivamente trovate alla fine di questo paragrafo, e anche qua se volete mettetevi un segno di particolare attenzione, ma questo è un mio suggerimento, poi ciascuno identifica ciò che ritiene più importante da sé, però qui trovate i progressi che ci possiamo aspettare per il futuro in relazione allo studio delle reti di... a che pagina siete voi? Pagina 22. A pagina 23, adesso, alla fine del paragrafo. Ok? Io infatti vedevo che poi seguivate anche con una certa attenzione. No, no, mi sono espresso male, dicevo alla fine del paragrafo, proprio, d'accordo? Alla fine del paragrafo. Se segnate l'ultimo capoverso, nell'ultimo capoverso trovate le direzioni future che ci si può aspettare per lo sviluppo delle reti in situazioni di, diciamo, di disastro. Ok? Allora, il primo, molto interessante, sono quattro sostanzialmente le possibilità di sviluppo futuro. La prima riguarda la creazione di movies, dicono qua gli autori, che mostrano in che modo reti tendenzialmente piccole perdono o guadagnano legami rispondendo, reagendo ad un tipo particolare di sollecitazione negativa, di rottura, ok? Quindi una ricostruzione del mutamento nel tempo di queste reti, e questo è il primo scenario. Il secondo, invece, il secondo approccio consiste, sono tre complessivamente, non quattro, scusatemi, consiste nel creare modelli matematici per capire in che modo le risorse si distribuiscono all'interno delle reti. Questo è molto importante, soprattutto quando dovete gestire delle situazioni nelle quali si producono nuove reti, anche se temporanee, perché voi utilizzate la struttura delle reti, potete usarla per la distribuzione delle risorse, che non sono solo risorse materiali, ma anche immateriali, per esempio l'informazione, il sostegno psicologico, eccetera. Il terzo approccio, invece, consiste nell'identificazione di strumenti statistici per valutare se un particolare modello di cambiamento della rete è corroborato dai dati che noi stiamo utilizzando. Naturalmente questo quando è che lo potete usare? Lo potete utilizzare se avete già un'idea su qual è un andamento della rete. Per esempio, una di queste potrebbe essere collegata a due studi empirici, come quelli che vedremo adesso. Okay? Rispetto a questi studi, quindi poi qui trovate degli esempi, e in modo particolare vi segnalo gli esempi che cominciano a pagina 24 dall'ultimo capoverso e che riguardano quelli che trovate sopra, li vediamo, sono diventati oggetto d'esame specifico, e riguardano le ricerche, ma non spiegano i risultati, ma spiegano alcune ricerche dall'ultimo capoverso in poi fino alla fine del saggio, dopo l'uragano Katrina. In particolare, in questi esempi emerge un ente governativo americano che è molto importante. Adesso lei mi dirà se è l'equivalente americano della protezione civile, che è l'FEMA, cioè Federal Emergency Management Agency, è l'ente federale per la gestione delle emergenze, è l'equivalente, ok? Bene. Ecco, se guardate, naturalmente questo ente è entrato nella gestione dell'uragano. Se andate a pagina 26, vedete in che modo alcuni enti si sono spostati nel corso del tempo rispetto ai rapporti con altre organizzazioni. E in basso, intanto nella figura in alto, trovate, vedo che non reagite in maniera stupita neanche di fronte a questa immagine, siamo a pagina 26, lei non ce l'ha, sa? Stavo guardando se era corretta la cosa. Ieri era un po' così. Sì. Allora, questi sono le organizzazioni che si sono collegate tra di loro dopo l'uragano Katrina. In alto, se guardate il grafo in alto, vedete, qui l'autore identifica la parte centrale, che sono appunto i centri di gestione delle emergenze, tra cui il FEMA, eccetera, e identifica ciò che invece è rimasto disconnesso, sostanzialmente al latere, per esempio le organizzazioni che si occupano di animali, di trasporto, della gestione dei rimpostimenti, eccetera. E poi fa notare che nel corso del tempo alcune organizzazioni, vedete, sono andate verso il centro rispetto a questa gestione. Per esempio l'ARC, che è l'American Red Cross, cioè la Croce Rossa, e invece, vedete, agosto 30-31 netto, poi settembre, 1 e 2 di settembre, il FEMA che è diventato più periferico, si trova all'esterno rispetto alla rete. Questa evidenza empirica mi permette di, che vi tenete un attimo in mente adesso voi, perché ci collega direttamente al terzo saggio, quello di Capuco, che adesso vedremo velocemente, sulle organizzazioni. E in modo particolare, uno dei temi che emergono, sostanzialmente uno dei risultati più rilevanti che emerge in questo saggio, che ha studiato le reti di collegamento tra le organizzazioni, quindi tra soggetti collettivi, dopo l'attentato alle 12 gemelle del 12 settembre 2001, è la scarsa capacità di connettersi da parte degli enti governativi con gli enti di privato sociale e con gli enti privati. E l'autore parla, citando anche delle testimonianze poi all'altra eccetera di altri studiosi, di una sorta di diffidenza nei confronti di queste organizzazioni. Mi scusi, per militare dove leggi, cioè veniva fuori la diffidenza da parte delle ONG nei confronti dei militari. No, questo invece è il contrario, forse sì. Reciproca, però in effetti perché di questo questo rapporto è in difficoltà, perché gli scopi, le finalità sono diverse, dal momento che il militare ha un certo tipo di scopo a livello militare, l'organizzazione umanitaria non può essere di conseguenza, non può affiancarsi da quel punto di comunque vista. Comunque poi adesso ci torniamo guardando quel saggio, perché invece secondo questo autore il fatto che ci siano degli attori molto centrali come Ferma in quel caso, io lo pronuncio così, non so se ci sia molto corretto per pronunciarlo in italiano, e altri che sono invece molto, molto periferici, può produrre degli effetti, può diciamo abbassare la quantità di effetti positivi legati al coordinamento tra questi diversi soggetti. Nelle conclusioni potete in modo particolare sottolineare il capoverso centrale del tema della pagina, siamo a pagina 27, cioè quello che inizia con Days, esatto, che sta per SNA, per che cosa sta? System Network, Social Network Analysis, disciplina della quale voi adesso siete competenti, perché qui c'è proprio, vedete, questi studi insomma, in qualche modo fanno capire come diciamo debba essere compreso in maniera complessa la rete dei soggetti in difficoltà, e in modo particolare perché noi siamo abituati tipicamente typically defined in terms of personal or physical attributes, cioè noi guardiamo le caratteristiche dei soggetti colpiti da disastro soltanto per gli attributi personali, quindi lo stato socio-economico, l'impiego, la presenza di disabilità, di età, eccetera, che pure vanno naturalmente non vanno dimenticate, e le vulnerabilità fisiche, per esempio il fatto che abbiano ancora una casa, la possibilità di fruire di, come dire, di mezzi di trasporto, di potersi muovere, eccetera, eccetera. Ok? E in ogni modo, ecco, occorre mettere dentro, questo è all'esito complessivo, quindi abbiamo visto un modello per inquadrare tutti i nostri spostamenti come studiosi nell'ambito dello studio delle reti di disastri dopo situazioni di disastro, che è il modellino presentato a pagina 14. Il saggio poi spiega ogni specifico aspetto di questo modello, quindi sostanzialmente sappiamo un po' che cosa fare, e le misure da utilizzare sono esattamente quelle che abbiamo visto, come un po' un puzzle che adesso si compone dentro questo modello che a mia conoscenza è il modello più raffinato. Ma devi andare, a presto, grazie per tutto, ci sentiamo presto, arrivederci. Questo è lo studio che, diciamo, ha usato di più nell'applicare, nel costruire un modello metodologico di studio del disastro con la network analysis. Ok? Quindi noi ci possiamo orientare all'interno e ci dà due spunti importanti. Il primo spunto che raccogliamo è quello collegato alle reti organizzative, proprio parlando della, della FEMA, qua, no? Di questo ente statunitense, e in modo particolare passa l'altra alla discussione. Sì, alla discussione, ma ci dà uno spunto su questo e poi ci fa capire che le reti devono essere analizzate negli effetti che producono, assieme alle caratteristiche fisiche e personali dei soggetti. E questo è un altro aspetto che ci teniamo buono. Quindi da una parte abbiamo le organizzazioni, dall'altra gli individui. Questo è lo, ci consente di fare questo saggio. Ci ha fatto inquadrare quello che noi sappiamo già dentro lo studio specifico dei disastri e adesso dobbiamo provare a vedere uno studio che riguarda gli individui e uno studio che riguarda le organizzazioni dopo situazioni di disastro. Ok? Per quanto mi concerne, il percorso che abbiamo fatto adesso all'interno del saggio e le nozioni evidenziate sono il cuore pulsante, quindi ampiamente sufficiente nello studio di questo primo lavoro. Ok? Se volete possiamo andare avanti nella presentazione dei lavori così come abbiamo fatto adesso. Di nuovo a voi di decidere in base alla, a come vi trovate più utile dal punto di vista dello studio. Procediamo così? Sì, sì. Ok. Allora, io vedrei prima questo studio qua, che è lo studio sul, vedete, coordinamento interorganizzativo in contesti dinamici. Networks in Emergency Response Management. Le reti della gestione della, della risposta all'emergenza. Ed è lo studio, il saggio che trovate, il terzo, di Naim Kapubo, che si occupa appunto di come i soggetti collettivi si sono messi in rete dopo gli attentati alle Torri Gemelle dell'11 settembre del 2000. Professore, io ho una domanda da voi. Però ce la teniamo se mai per dopo, no, alla fine di tutto. Adesso mi viene un tavolo. Se mai ci sarà un qua viene studiato l'approccio nel momento in cui subito dopo l'uragano, quindi a livello diciamo di reticolo sociale vediamo che si creano diciamo dei nuovi legami di tipo artificiale tra virgolette, perché saranno semi permanenti. Beh, questi sono legami che registrati dopo l'evento, molti dei quali sono rimasti, ma questo non lo sappiamo, non sappiamo quanti. Quindi non sono stati fatti studi, cioè sì, nel momento dell'emergenza ovviamente ci sono tutte le organizzazioni. Si attivano, esatto. E quindi diciamo contesto, molti più attori di quelli che ovviamente c'erano prima. Ma dopo la situazione di ripristino, quando queste organizzazioni andranno via, quello è stato studiato, è una cosa. Questa essendo la rete di sostegno dopo l'emergenza ha senso solo rispetto all'emergenza. Ok? Se dopo lei vuole dire che come si ripristina poi il tessuto sociale, cioè. No, dunque qua si parla delle reti tra le organizzazioni, non delle reti personali dei soggetti, non so se ci sia stato uno studio dopo l'uragano Katrina rispetto a questo. Sì, probabilmente sì, cioè è citato all'interno, ma non ci sono i risultati. Però questo che lei dice probabilmente è utile perché solleva di fronte ai risultati di questo studio che adesso vedremo qua, che riguarda anche parte dei soggetti coinvolti dopo Katrina, è quanto è importante che gli organismi, i soggetti collettivi siano connessi prima rispetto all'evento catastrofico, per produrre poi delle reti che sono delle reti preesistenti, quindi anche rodate. So, siete connessi prima o no? Capito io, siete connessi prima? Sì. No. Scollegati. Allora, in questo momento sono scollegato, mi è partita. Dica, se mi ricordo. Dica, che succede? No, no, mi ero un attimo scollegata. Beata lei che ce l'hai ancora, io penso che i miei. Io ho dei neuroni immagini, dei neuroni specchio. Va bene, allora, questo studio, che se volete dopo questo ci possiamo prendere un'altra pausa di 5 minuti, va bene? Ok? Questo studio è sostanzialmente. Lo trovate ben presentato nel secondo capoverso, no? Adesso stiamo guardando questo, Questo qua. Questo lo trovate come terzo, adesso io trovo più conveniente parlare prima di questo, d'accordo? Lo trovate come terzo nell'ordine, nel programma, leggeteli come volete, non c'è differenza. Questo studio, lo vedete nel secondo capoverso del paragrafo introduttivo, si occupa proprio di analizzare il modo in cui gli enti di emergenza ufficiali quindi hanno reagito dopo gli attentati al World Trade Center e in che modo hanno interagito tra di loro e con altri attori istituzionali, con altri soggetti collettivi nell'ambito di questa situazione. Alla fine di questo capoverso, che finisce alla pagina successiva rispetto a quella prima, quale succede, provate, guardate, io vado avanti così, però vi devo proprio. Ok. Ma perché io sto vedendo tutto? Ok. Leggete quest'ultima frase. Specifically, this paper examines the interaction among the organization that evolved in response to the September 11 terrorist attacks on the World Trade Center in New York City. Ok, vediamo le domande. Le domande che si pone questo paper. Questo paper che mette in modo particolare in evidenza il loro giocato della protezione civile, allora come ci conferma il suo collega? Questa è la risposta del sistema di emergenza americano. Americano, la protezione civile americana. No, no, di tutto il sistema, perché c'è sia la FEMA, ma c'è anche la CR, mi sembra che ci siano anche i vigili del fuoco segnati come sì, esatto, ci sono molte organizzazioni. Allora, qui abbiamo, le domande sono: how did interorganizational coordination among the organization involved in response to the extreme event? In che modo il coordinamento si sviluppa, evolve in risposta agli eventi estremi? Qui si parla di eventi estremi, nel senso di evento catastrofico. Cioè, l'aspetto, diciamo, come avete visto, forse non so, a me questo ha colpito in modo particolare, no? Che interessa gli analisti di rete, che sono sempre molto interessati a identificare ciò che permane nel corso del tempo, è l'esperimento di rottura di questi eventi. Cioè, questi eventi sono qualcosa di non rutinario. E quindi questo saggio, per esempio, in modo particolare, mette al centro il concetto di resilienza. Di resilienza. E qua abbiamo parlato forse con lei durante una lezione proprio. Adesso lo vediamo. Poi, what primary organizations were involved in response to the attack. E poi ancora i nodi primari delle interazioni tra le organizzazioni nella risposta all'attacco, cioè in che modo si sono attivati, eccetera. E vedete subito che la fonte delle informazioni nella parte di metodologia sono i reports generati dal FEMA e poi alcune interviste svolte dagli autori di questa indagine. Il programma utilizzato per l'elaborazione dei dati è USINET 6. Ok? Quindi il programma che trovate, l'osservazione 5, presentato. Voi lo trovate anche presentato all'interno dell'appendice della richiesta, trovate la versione. Ma è quello che ho fatto lei? La versione 5. Proprio lì a pagamento credo che esista una versione tria che dura qualche mese. Sì. È vero, l'ha scaricata? No, giusto per dare, non so, funzionano così. e quindi ci guardo sull'iPad. Come, come con le ferie, no? Invece di farsi 2 mesi di ferie, si fa 2 mesi di network analysis e poi quando scade. Fai in analisi. Però costa meno che le ferie. Sì. Lo vuole quando scade fa in analisi. Purché sia dei ridicoli ci può andare. Allora, abbiamo una, un aspetto poi di inquadramento teorico su, diciamo dal punto di vista dello studio delle reti, e qua il vostro collega sicuramente si divertirà in maniera particolare. Da pagina 35 in avanti troviamo un, appunto un inquadramento teorico che adesso possiamo pure come dire, saldare, e invece vi voglio vorrei richiamare un po' la vostra attenzione a pagina 37 sulla presentazione del concetto di resilienza che poi questi autori applicano alle reti, ok? Ed è la definizione, che ne dà Aaron Lipdansky, la capacità, vedete, the capacity to cope with unexpected dangers after they have become manifest, learning to bounce back. E questo dà proprio il senso, riferito alle reti, della capacità delle reti di resistere, di reagire, no? È come se fossero proprio capaci di ammortizzare. Questa è una definizione di carattere generale, no? Ma se noi la applichiamo alle reti, concorda lei, no? Dà proprio questo senso delle reti, no? Allora, vedere quali sono poi gli aspetti, vedete, applicato ai sistemi e agli elementi che comprendono sistemi, vedete abbiamo la robustness, cioè l'abilità, vedete, forza generale, varianza, eccetera, eccetera, poi abbiamo la resourcefulness, la redundancy e la rapidità. Insomma, questo è un po' il background teorico che l'autore sposa per prepararsi all'analisi del modo in cui hanno reagito le reti organizzative, quindi gli interorganizational networks creati dopo il disastro dell'11 settembre. Infatti, ecco. Ieri parlavamo di Works Where, e ne parlava appunto il maresciallo. Sì. E io non mi ricordo. Vi ricordavate in che contesto? Ne parlava dei. Who is working where? Ne parlava ieri. Il maresciallo. Appunto, chi lavora dove per. Niente, rimaniamo una mail. Ecco. No, era interessante capire ieri di che cosa ne faceva riferimento a quella cosa. Perché anche lui parlava comunque Avete parlato di questo ieri, avete già parlato di queste cose. Abbiamo parlato di. No, le ha accennate. Ha citato Who Works Where. Ah, sì. Ok. Proprio in riferimento appunto all'organizzazione che poi si. Si connette. Si connette proprio nella fase di emergenza, quindi proprio a livello operativo. Ecco, allora se ci dovessimo chiedere a che cosa serve questa connessione, trovate l'elenco, diciamo, degli effetti positivi che possono emergere dall'interconnessione tra le reti alla pagina successiva rispetto a quella nella quale forse siete ancora, che è la pagina che abbiamo appena visto, cioè la pagina 38. E a pagina 38 trovate l'elenco, vedete, con un elenco di numerato, dove abbiamo il primo punto, le reti interorganizzative, cioè tra organizzazioni in situazioni di emergenza, possono giocare un ruolo importante nel facilitare il flusso delle informazioni al di là delle frontiere delle organizzazioni. Following are the principal pathways. Questi sono i percorsi principali attraverso i quali le reti sociali accrescono la performance delle reti organizzative. Primo punto. Social networks increase crescono, le reti sociali accrescono le interazioni tra le organizzazioni che can lead to development of trust, che possono condurre a uno sviluppo della fiducia. La fiducia riduce i costi di transazione, eh? Cioè se ci si fida tra le organizzazioni servono meno contatti, servono meno mediazioni, diventa tutto più economico dal punto di vista della rapidità. Come ho anche citato qui, l'opera che trovate citata nel 1990 è Foundations of Social Theory, ed è un'opera fondamentale di Goleman, tradotta anche in italiano, Fondamenti di teoria sociale, ed è il concetto, quando parla di questo, parla del concetto di capitale sociale. Ok? Le reti producono capitale sociale per chi? Per i membri che ne fanno parte, no? Favoriscono, riducono i costi di transazione. Poi abbiamo nel terzo punto un riferimento a Fukuyama. Le reti consentono di dare fornire agli individui, e in questo caso quindi li aiutano a superare queste situazioni con fonti di sostegno durante periodi di of trouble, cioè di sofferenza, appunto di collegati tendenzialmente alle situazioni di disastro, e permettono al gruppo come unità intera, come intero appunto, di affrontare in overall high levels of risk taking, cioè permettono al gruppo di reagire meglio nella gestione delle situazioni di rischio. E qui c'è un riferimento a Fukuyama, e penso che sia Trust, 1995, e Fukuyama pure è un autore molto importante. Voi avete rischiato di beccarvi un lavoro di Fukuyama come parte dell'esame, questo lo dico, ci avevo pensato mentre organizzavo il programma d'esame, poi invece ho voluto scegliere di puntare tutto sulla network analysis, perché Fukuyama è un grande esperto di analisi delle situazioni di rischio a livello internazionale, non è mai capitato di affrontarlo, di bruciarlo. Infatti Trust, The Social Virtues of the Creation of Prosperity, che è tradotto credo pure in italiano. Poi le reti sociali facilitano una rapida dissemination delle informazioni tra i membri e riducono le asimmetrie informative che possono d'altra parte scoraggiare le transazioni che danno profitto, che è una delle più grosse criticità che abbiamo, cioè la rete di comunicazione, nel senso che la comunicazione che sia dal punto di vista della comunicazione gestita in emergenza, ma anche la comunicazione tra soggetti del sistema stesso tra di loro. Le faccio un esempio banale, esempio, possono esserci i sistemi di soccorso del 118 in Italia gestiscono il sistema secondo dei protocolli NATO, ok? Basti pensare che loro identificano le zone in bronze, silver e gold. I vigili del fuoco invece identificano le zone secondo degli altri protocolli, hanno rosso, giallo e verde. Solamente con questa discrepanza del fatto che i colori è già una cosa dove non c'è una comunicazione univoca tra sistemi di emergenza. E qui è una discrepanza notevole, perché alla fine comunque uno conosce entrambe le situazioni, una maxi emergenza, oppure si trova a capire le cose in maniera diversa. E questa cosa qua è una delle cose, secondo me, che lui analizza. Gli autori che qui utilizza Capupu sono tutti esperti del concetto di capitale sociale, esatto, internazionale, anche Ostrom, eccetera. Questi autori qua mettono in rilievo l'importanza, la necessità del coordinamento, d'accordo? E lo sforzo che noi dobbiamo fare è di tradurlo. Però se voi riconoscete questa importanza a livello teorico, come è riconosciuto all'interno di questo saggio, gli attrezzi, le strumentazioni per misurare, se io vi dovessi chiedere, voi siete capaci di dirmi se una rete è coordinata o no, se c'è integrazione a livello comunicativo oppure se c'è accentramento? Avete gli strumenti per poterlo determinare? Ne possiamo analizzare gli effetti, ma non c'è uno strumento metrico. Sì, certo. Tu metti i soggetti in relazione agli eventi e metti in relazione i soggetti tra gli eventi. Vedi se ci sono connessioni che possono far sì che sia una comunicazione tra loro. Adesso che abbiamo un metodo. Ma perché ci hai spiegato un metodo, professore? Ma attualmente non c'è. Io in realtà stavo proprio chiedendo a voi adesso. No, ma oggi non c'è. Io non lo so fare troppo. Ho capito l'idea quale può essere. No, ma poi secondo me invece c'è la... Ce la possiamo fare. Ce la potete fare. Ce la potete adesso. Non che esista, non che esista già. Hai fiducia, dai. No, ma dico, ma attualmente non c'è. No, lo stato attuale evidentemente non come c'è. Come strumento di analisi in piedi attualmente non c'è. Non c'è un documento di impianto di analisi, però potrebbe essere un'idea fare un documento di impianto di analisi che possa essere condiviso e utilizzato in altri sistemi. In futuro sì. Per dire, anche mettere solamente in relazione, che ne so, come gestisce un'emergenza i vari reparti di un ospedale. Beh, ma questo dovrebbe essere uno strumento fondamentale per capire l'efficacia di quello che c'è in piedi. No, comunque è molto interessante questo aspetto, soprattutto perché non è scontato, cioè potrebbe venire su chiunque e dire no, secondo me il coordinamento eccessivo tra eccetera eccetera produce degli effetti negativi. Allora per dire, il sistema che abbiamo noi di gestione dell'emergenza è un sistema che si fonda su una metodologia antica che è il metodo Augustus, metodo di un imperatore romano, dove viene suddivisa un'area decisionale, quindi un nodo principale dove ci sono degli attori che possono decidere, dove c'è l'autorità che comanda la gestione, e ci sono poi in relazione alla stessa autorità un'unità di crisi decisionale con più funzioni, 9 per i comuni, 14 per quel che riguarda, diciamo, a livello questo viene insegnato ai corsi di formazione sull'emergenza. Questa è una rete dove il nodo principale è l'autorità, all'interno di questa rete ci sono attorno le relazioni, poi ci sono le funzioni sotto loro, tra di loro hanno tutti quanti dei sottogruppi che sono delle sottoreti che fanno capo chiaramente alla responsabilità di funzione. Però allora abbiamo e c'è una relazione tra questi soggetti di funzione. Abbiamo visto col modellino che abbiamo visto nel saggio precedente che c'è un primo livello importantissimo di analisi, che è la distinzione tra in e out, cioè tu puoi coordinare ma non tutto. No, esatto. Ci possono essere 30 associazioni delle quali non si sapeva neanche bene l'esistenza prima, che invece si attivano esternamente per rispondere dall'esterno, e dopo come fai a dire no? Beh, oggi nel modello però non è così. Voi non aiutate, cioè il discorso questo è che si attivano autonomamente. Oggi nel modello della protezione civile non è così, sono attivate chiaramente nel momento in cui viene oggi è gerarchico un'emergenza, però il concetto secondo me deve passare, non è questo, il concetto è che comunque sia, se tu hai delle connessioni tra i vari soggetti che sono i vari nodi e che possono essere suddivisi per anche una delle cose, tu hai una suddivisione dei compiti e riesci a gestire tutto. Se non hai queste cose qua ti trovi un ramo secco, scusi il gergo, della gestione dei nodi che alla fine arriva lì ed è un nodo isolato. Un nodo isolato non ha più nessuno che può dare una mano. Allora, abbiamo creato le condizioni per vedere un po' due dati qua. Così, scusi, sono io, è colpa mia, sono io che instillo il virus della discussione. Allora, ai punti 5 e 6 vediamo, per concludere questo inquadramento generale, il social capital improves, accresce l'accesso alle risorse tra i membri della rete, e poi le reti sociali consentono ai membri di, ecco, to solve collective action problems more easily, cioè di risolvere i problemi, di aggredire i problemi con azione collettiva in maniera più facilmente, with less fear, con una paura minore di sbagliare e con una minore tendenza al free riding, d'accordo? E quindi questo è molto importante, perché è ovvio che comportamenti possono essere dei comportamenti che non sono consoni. Allora, facciamo un salto, se no non riusciamo a finire. A pagina 41 vedete la rappresentazione strutturale della rete costruita. tra le organizzazioni, vedete c'è il congresso, c'è la Croce Rossa, c'è il FEMA al centro, eccetera. E poi, visto che le abbiamo viste, vi voglio subito far vedere due misure che vi faranno brillare gli occhi. E sono le misure che trovate a pagina 40, dopodiché è semplicemente la presentazione di alcune misure collegate a questa. A pagina 43, andate a pagina 43. Che cosa c'è in alto? La tabella 3. Closeness, using, FEMA, situation, records, data. Cioè, la situazione è, utilizzando i dati raccolti dal FEMA sulle connessioni, relativa alla closeness. E cos'è la closeness? La closeness? Come connessi? Closeness. No, closeness. C'è scritto lì, closeness, non c'è l'altro. Close, connessioni. Schema di connessione usato dal FEMA, il report del schema di connessione usato dal FEMA. Allora, il closeness è una misura di centralità, sì. che abbiamo visto forse sì. non ieri, ma lo scorso venerdì, ieri l'abbiamo ripresa un po'. Io non c'ero. Ed è una misura che ci dice che cosa? Chi è più connesso secondo la è un indice di centralità globale. Sì. Lo ricorda? È più connesso il soggetto che è globalmente meno distante da tutti gli altri. Ok, allora, che cosa abbiamo nelle due colonnine dentro questa tabella? Vi va che lo vediamo assieme? Abbiamo vicini, fairness. La prima grandezza, fairness, è la somma delle... ve lo faccio vedere perché USignet riporta questo come output. No, fairness non abbiamo mai parlato. Ah, ecco. Se solo ricordo vuol dire che ci ha tradito con un altro corso e la sentito. No, ah, ci ha tradito la Valentina. Allora, il fairness è la somma delle distanze. È la distanza, cioè più lontano. È la somma delle distanze, ok? Quindi, più è alta questa somma, più un nodo è globalmente lontano da tutti gli altri, giusto? Okay. Questa grandezza noi abbiamo imparato a confrontarla, mettendola al denominatore, con un numeratore che fosse la distanza minima. Quando è che la somma delle distanze minime è raggiunta da un nodo? Quando è a distanza 1 da tutti gli altri, cioè la distanza più breve. Avete visto pure il passo che ho fatto per emulare. Ok, allora, se noi confrontiamo la distanza minima con la somma della distanza reale, otteniamo la closeness, cioè la connessione. Misura di centralità. La centralità globale basata appunto sulla prossimità tra i nodi, che è una misura normalizzata, in questo caso è riportato in percentuale, ok? Quindi avete il 95,23%, 24%, arrotondando alla seconda cifra dopo la virgola, in alto, e come vedete il nodo che ha la closeness più alta ha anche il fairness più basso, ok? Naturalmente perché è più vicino a tutti gli altri, cioè la somma delle distanze è più bassa, ok? Allora qui c'è una differenza molto forte tra il FEMA e tutti gli altri. Si passa dal 95% al 59% del US Military Armed Forces, che sarà l'esercito. Poi c'è il governo di New York, il sindaco di New York. Come vedete abbiamo tutte figure che sono sostanzialmente figure istituzionali. Che cosa c'è sotto nella tabella 4? Così. Un'altra nostra cara amica, che è la Betweenness. Prima, la prima colonna è la versione non normalizzata, la seconda colonna invece, vedete che c'è una N davanti, quando c'è una N vuol dire che la misura è normalizzata, tendenzialmente intervallo 0,100 oppure 0,1, ok? E c'è la Betweenness, che è la capacità del nodo di essere mediatore tra... Esatto, tra le altre coppie di nodi, le coppie degli altri nodi. Quindi la protezione civile in America ha avuto veramente un ruolo fondamentale. Un ruolo di coordinamento assolutamente fondamentale. Guardate la differenza tra Betweenness del FEMA, del 41.84%, il sindaco e di tutte le altre, sempre il sindaco che è un sesto, 7%, 7,5%. Ma quindi la protezione civile non dipende dal sindaco allora, a New York? No, questo è federale, eh? È un organo federale, è un organo federale. In Italia è su base locale. Beh, sì, beh, sui disastri locali sì. Arrivo subito. Sì, può essere sul piano dal sindaco, ma può essere sulla parte anche dalla prefettura, anche dalla prefettura, dipende dal tipo di disastro. Allora, mi permettete di dire un'altra cosa qua. Però la Croce Rossa è proprio non c'è l'ultima. L'ultima. Ma sì, non sono posizione della rete. Sì. Ha dato supporto e basta, ma in effetti quella no, è ultima, cioè come non ha nessuna capacità di mediazione all'interno della rete. Sì, sì, sì. Non sì, deve sì, organizzare sì. niente. Cioè, questo assolutamente non è un valore di quanto ha fatto, no, ho capito che. Sì. Deve dare solo supporto. Però come vedete è molto. E qui c'è una frase. Cioè, è strano che già la Croce Rossa non è. Ecco, tornate un attimo a pagina 30. Io nel grafico così. C'era anche Loccia, no. No. No, no, no. Era un altro organismo. OSH. Occio. OSH. Non era OCH. Occio. Allora, chiedo alla vostra collega nominata oggi Beatrice di leggerci il secondo paragrafo, se vuole. Il fine dicitore. Fine dicitore, naturalmente con la sua autorizzazione. Beh, ma lei esula da tutto. Ieri, visto che questi qua sono tremendi, hanno mandato Davide a relazionare. Nel frattempo della relazione il maresciallo era diventato di colore verde. La relazionale durante la lezione. Sì, doveva sì. doveva indicare quelli erano i gap tra il servizio militare e quello civile. Insomma, l'hanno mandato in passo alla scuola. Quell'altro momento si stava trasformando in MOOC, non so se avete fatto caso. Lui a un certo punto è intervenuto. Lo stesso Davide che conosco io. Lui a un certo punto arriva e intervenuto e ha detto: noi abbiamo mandato davanti Davide, ma non pensavamo fosse un disastro. Quindi lo diranno anche di me adesso. L'ha sconfessato. Io naturalmente non le posso rappresentare l'espressione. Lei non si trasforma come No. Guarda. Non si trasforma nell'incredibile Hulk. Ecco, si è trasformato. Allora, ci potrebbe... Era un militare, l'hai tutto subito. Beh, era per... E poi era un maresciallo. Per smorzare. No, ho pensato da tira fuori il mitra. Ma domanda mia. Fucile, Luigi Orazza. Tu ne conosci tanti maresciallo. Ok, parto. Via. Il secondo capoverso. No, pagina 39. Ma dipende da dove torniamo siamo. Torniamo un attimo indietro. Pagina coordinating. Gustiamoci questa citazione testuale. A pagina 39, secondo capoverso. Eccola, coordinating the activities of no crisis organization is a complex and difficult task. Public managers are reluctant to rely upon non-profit voluntary organization during extreme events because they distrust the intention of the volunteers, lack confidence in the volunteers' skills and the resources. Fear the volunteer may endanger themselves or others. Are concerned the volunteer may get into way of professional responders and fear that there may be legal liability for volunteers actions. Vediamo l'espressione subito del mondo del volontariato rispetto a questo, ok, è sufficiente. Allora, vedete quindi qual è il frame generale. Per concludere su questa parte qua, vi voglio far vedere la pagina 45, dove guardate un po' che cosa troviamo in tabella 6. Pagina 45. In tabella 6, ed è l'ultima cosa che guardiamo di questo saggio, le click. Le click. Troviamo le click. cioè le click identificabili a partire da questo network. 9 in particolare. Ma la ferma è come il prezzemolo. E poi sotto vedete anche un cluster gerarchico della matrice delle equivalenze. Quindi abbiamo un po' identificato, i nodi sono quelli indicati in alto, i numeri dei nodi, d'accordo? Naturalmente a livello di click abbiamo una grande presenza del FEMA e poi però anche di altri organismi istituzionali, complessivamente 9 click identificate da questa, naturalmente click che hanno una consistenza in termini di membri diverse, eh? Ok, passiamo. Non vedo che il Verizon, chi è Verizon? Scusi. Verizon. Che c'è meglio? Perché si vede che è più basso rispetto alla. Non c'entra qua. Sì, forse è zero. Probabilmente è zero in termini di. Ok. Ok, nelle conclusioni si evidenzia. Ho solo in particolare sottolineato due frasi che possono essere la pagina successiva. Abbiamo quasi finito. Nelle conclusioni vediamo innanzitutto il richiamo del government should provide incentives and information to promote multi-sectoral collaboration, quindi non collaboration ma collaborations evidentemente, e poi la necessità evidenziata all'inizio dell'ultimo capoverso di per fornire una risposta più efficace di una collaborazione e di una fiducia più generalizzata between government agencies, cioè gli enti governativi a tutti i livelli, e tra il pubblico, tra il settore pubblico e il settore non profit, che da questa ricerca emerge come particolarmente assente, cioè nel senso che troviamo sia nelle click che negli altri una enorme centralità degli organismi governativi. Domanda, ma loro come hanno fatto a fare questa ricerca? Mi scusi, hanno preso in considerazione l'associazione come soggetto oppure hanno parlato con i soggetti di un'associazione? Hanno preso in considerazione, ci sono diverse fonti, quella più rilevante è la fonte dei contatti tra organizzazioni ricostruite dallo stesso FEMA, ok? Quindi tra organizzazioni, non tra sì, loro cosa hanno fatto? Hanno elaborato, hanno preso un arco temporale, hanno visto le relazioni che ci poteva essere. Dopo, quello che è successo dopo l'11 settembre, in che modo si sono attivati per immediatamente dopo per organizzarsi? Se lei vuol fare un paragone, per dire adesso vi faccio proprio un esempio, in questo è il preciso momento, è quello che sta succedendo in Italia. In Italia abbiamo più centrali operative con numeri di emergenza diversi, dove alla fine chiaramente ognuno darà la sua risposta per competenza. Sì. Il succo del discorso è quello con l'avvento del 112. Ci sarà una centrale operativa unica che alla fine smisterà le competenze, quindi ci sarà il nuovo centrale del 112 che smista di competenza. Però facendo così, col 112 potremmo avere una relazione diretta tra le varie strutture, mentre prima le strutture comunicavano tra di loro. Quindi c'è un'app centrale che esista. Comunque è una cosa che mi è venuta così per diciamo di collaborazioni istituzionali, ecco, tra questi anni. Per concludere, vediamo un po'. Vi volete fermare 5 minuti? No, andiamo. No. Beh, sono un quarto alle 7. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok. Allora, l'ultimo saggio, quindi con questo saggio abbiamo concluso, io vi ho un po' identificato gli aspetti più rilevanti, le vediamo. L'ultimo saggio che guardiamo, che è questo molto molto interessante, è una ricerca svolta dopo l'uragano Andrew, che c'è stato nell'agosto del 1992 e ha coinvolto Stato, un po' in particolare la Louisiana, eccetera, e questo uragano è stata l'occasione per un gruppo di studiosi. Ecco, Questi due saggi di approfondimento che noi vediamo, voi li trovate presentati nel primo saggio che abbiamo visto, quello di inquadramento metodologico, come esempi di studi di relazioni tra organizzazioni, quello che abbiamo appena visto, e tra individui, quello che vediamo adesso. Ok? Per questo ho ritrovato una sintesi, però sono proprio due saggi, due studi che quegli autori considerano molto rilevanti per vedere le differenze tra l'approccio interorganizzativo e quello invece interpersonale, diciamo così. È per questo che io poi anche li ho scelti come materiale di esame. Allora, in questo saggio qui di Hulbert, Heinz e Becks, voi trovate all'inizio una interessante discussione circa la forza dei legami deboli e la forza dei legami forti. Il primo autore che trovate citato, pagina 599, se volete ragioniamo subito un attimo, Core Networks and Tie Activation, What Kinds of Routine Networks Allocate Resources in Non-Routine Situations. Ok? Quindi qui lo scopo di questo studio è vedere, analizzare le reti che c'erano prima e quanta parte di queste reti e quali aspetti, quali pezzi in particolare di queste reti sono state utili in una situazione di bisogno dopo l'uragano. Okay? L'autore di riferimento che trovate subito citato a pagina 599, cioè la pagina successiva, in alto a sinistra è Mark Granovetter. Vi ricorda qualcosa Mark Granovetter? Quando è che abbiamo parlato di Mark Granovetter? Quando abbiamo parlato degli esempi. Sociologia come relazione. Vi ricordate gli esempi di come la network analysis permette di comprendere meglio alcuni fenomeni che e quindi abbiamo parlato dei legami deboli e dei legami forti, che tipo di lavoro si può trovare grazie ai legami deboli, grazie ai legami forti, lavoro professionalizzato, altamente qualificato, grazie ai legami deboli, lavoro dequalificato, grazie ai legami forti, quello che erano Vetter e Margaret Grieco, è uno degli esempi che aprono un volume di Chiesi. Ok? Allora, questi autori partono da Granovetter e in modo particolare dall'analisi che questi fa della forza dei legami deboli per trovare lavoro. D'accordo? Dopodiché, partendo da questa impostazione, si chiedono alla fine di questo capoverso, il capoverso che inizia con Granovetter qua. In our case, the particular event is a natural disaster. Noi dobbiamo capire come un disastro naturale incida sulle reti. The particular network sector è il core network e la rete, il core network è la rete, come poi vedremo come l'hanno definita, delle relazioni più strette che hanno queste persone e che tipo risorsa è in termini di risorse informali, di supporto informale, passano attraverso queste reti. E quindi qui poi c'è un po' un inquadramento di carattere teorico che tutto sommato richiama molte delle cose che abbiamo già detto. Quello che vorrei fare è al di là dell'inquadramento di carattere teorico, andare subito al succo, al centro di questo saggio. E secondo me, perché i saggi hanno sempre questa struttura, hanno un inquadramento teorico, poi presentano le ipotesi di ricerca che si radicano un po' sull'inquadramento teorico, su ricerche specifiche già fatte su un certo tema, poi presentano la metodologia, poi i risultati della ricerca, poi la discussione nella quale ci dicono se le ipotesi sono corroborate o falsificate e poi le conclusioni. Come? Come matematica, ok? Sì. L'ipotesi. Ci sono le ipotesi, qui però c'è diciamo ciò che è necessario per corroborarle sono i dati empirici. Ok? Bene, allora, a pagina 602 si entra in media stress, dopo la lettura interessante della parte introduttiva, molto della quale la conoscete già perché è tutta incentrata su Mark Granovetter e la richiesta che fa Mark Granovetter di capire come invece le reti, i legami forti sono utilizzati, eccetera. E loro partono da questo concetto per inquadrare un po' lo studio specifico che svolgono, e qui abbiamo la identificazione come diciamo centrale di alcuni aspetti della struttura delle reti che have been shown to be consequential, è stato dimostrato essere conseguenziali, tra di loro posti conseguenzialmente nel contesto di supporto, e sono diciamo in questo paragrafo centrale al quinto rigo, se volete sottolineare questo aspetto, e sono la densità, il size, la diversità delle dimensioni del network range, poi vediamo che cosa intendono con questo, e infine la composizione delle reti. Allora, questi concetti li usano per formulare delle ipotesi di ricerca rispetto a come le reti, e in modo particolare le reti più strette, più intime, che preesistono rispetto al disastro, sono utili in situazioni di disastro. Perché è molto interessante guardare le ipotesi? Perché per formulare le ipotesi questi autori ci usano la letteratura di ricerca che esiste già su questi temi, ok? E quindi per noi le ipotesi sono delle informazioni, perché ci dicono delle cose che non sapevamo su il modo che hanno le reti di reagire in situazioni di disastro, ok? Allora, vediamo hypothesis, ok? E cominciamo col primo concetto, il concetto di densità. Questi quattro concetti che abbiamo visto adesso servono, questi quattro aspetti della rete servono, sono il filo conduttore conseguenzialmente posto tra di loro per formulare le ipotesi. Quindi la prima ipotesi riguarda la densità, ok? Qui dice studies of informal support transactions inside and outside the disaster context. Vi ricorda qualcosa questa precisazione? Dentro e fuori il contesto del disastro. Quello di prima. Esatto. Suggest that informal support comes more frequently from more dense networks than from their less dense counterparts. Cioè, il supporto arriva prevalentemente dalle reti più dense, e voi sapete che cosa significa che è una rete densa, non ve lo devo ripetere io, d'accordo? Ok, e arriviamo, andando avanti, per questa ragione gli individui embedded vuol dire incastonati, incastrati. Incorporati. Sì, incorporati, però incastonati dà proprio il senso del stare dentro una struttura, sebbene incorporati sia assolutamente utilizzabile per tradurre il termine. Per queste ragioni individui incastonati, incorporati in core networks di alta densità dovrebbero attivare una più grande proporzione nel senso proprio di proporzione, una maggiore incidenza di legami core network per il supporto informale in situazioni non di routine. Invece gli individui che hanno reti core networks, reti strette meno dense, tra di loro dovrebbero avere meno supporto in situazioni di difficoltà. Se sfogliate la pagina successiva trovate l'ipotesi 1A e l'ipotesi 1B, proprio relativa a questo. Ipotesi 1A: più alta la densità del core network in cui un individuo è embedded, incastonato, eccetera, più grande sarà la proporzione, core networks, di legami del core networks che l'individuo attiverà per sostegno proprio in reazione alla situazione di bisogno. Okay? L'ipotesi B riguarda invece il nesso tra la densità, più alta la densità del core network, per cui l'individuo avete la prima parte uguale, più grande sarà l'incidenza of informal support providers, dei fornitori di supporto informali che verranno dall'interno piuttosto che dall'esterno rispetto al core network. Quindi se la rete core è densa avremo più legami di sostegno che provengono da questa rete rispetto a quelli che provengono da fuori. più è densa la rete di sostegno, più avremo ai soggetti che ci aiutano, che vengono da questa rete, piuttosto che soggetti che ci aiutano, che vengono da fuori. Badate che questa cosa è, non è una banalità, attenzione, perché qua non stiamo dicendo che più è grande la rete di supporto, più, qui stiamo dicendo che se la rete, a prescindere dalla quantità, se è molto densa, la rete core impedisce in qualche modo a soggetti esterni di aiutarci, cioè noi ci facciamo aiutare prevalentemente da questi, sarà più difficile per noi, io la voglio leggere così, così emerge anche l'altra faccia della medaglia, farci aiutare da soggetti esterni rispetto alla rete. Quindi la tendenza che ha un individuo a farsi aiutare da altri, se queste ipotesi sono corroborate, dipende dalla densità della sua rete. Questo è molto importante da capire, attenzione, perché le reti non esistono solo fuori, esistono anche dentro la testa dei soggetti che sono abituati ad averle in una certa maniera. Va bene? Ok, veniamo al network size, il secondo concetto, che successivamente ci porta alla formulazione delle ipotesi. Qui leggo dopo MacPherson 1993, se volete, sottolineare questo aspetto: Studies of Informal Social Support Transactions Inside and Outside Disaster Context Support the Second Argument, cioè dimostrano che c'è un'associazione positiva tra la grandezza della rete e Receipt of Informal Support e il fatto che si possa attingere a supporto informale. E abbiamo le due ipotesi di ricerca collegate a quale aspetto della rete, non più la densità, quella l'abbiamo già visto, ma la size, la grandezza, esatto. Prima, più è ampio il core network nel quale l'individuo è incastonato, è inserito, più grande sarà the proportion of core network, la porzione di core network, dei legami del core network che l'individuo attiverà per il supporto informale. Poi, seconda ipotesi di ricerca, più grande è il core network, il cui individuo si trova all'interno, embedded, più grande sarà la proporzione di fornitori di supporto informali che vengono da dentro, dall'interno, rispetto al core network. Ok? Quindi lo stesso andamento per la quantità di legami che vengono dal core network, se è più denso e se è più largo, se è più ampio, o di fornitori di aiuto che vengono dal core network, se è più denso, se è più largo, se è più ampio. Veniamo ad una misura di diversità per la terza, diciamo, la terza coppia di ipotesi di ricerche, la geographic dispersion. Ok? Qui, se leggete dopo la citazione 1990, trovate because, residential proximity, fosters, frequent contact, tensoring, net connections, mutual awareness of problems, and easily delivery of it, individui le cui reti core networks contengono altes, cioè gli altri, vedete l'approccio egocentrico che viene fuori anche dal fatto che gli altri si chiamano alter, okay? Che hanno alter più dispersi sul territorio, meno, con minore probabilità riceverà supporto informale. E abbiamo quindi le ipotesi 3A e 3B collegate, poi ce ne vuole la parte successiva, è veramente interessante, questa ovviamente. 3A e 3B collegate alla dispersione geografica, dei core networks dei rispondenti, cioè le persone intervistate, diminuirà l'incidenza del connetto, dei legami di connectors, che è la proporzione, la quantità dei legami di connectors che gli individui attivano per supporto informale. Quindi più ce li hai dispersi sul territorio, meno legami da questi di aiuto ti possono venire. Più ce li hai dispersi nel territorio, ipotesi 3B, minore sarà la quantità di soggetti che vengono da questo connectors che ti possono aiutare. Un altro indicatore della diversità è utilizzato per le ipotesi di ricerca 4A e 4B ed è la gender diversity. Allora io vorrei che adesso voi seguiste con attenzione questo aspetto, perché è molto importante. Cioè, allora qui abbiamo già delle ipotesi di ricerca tratte dalle ricerche precedenti che ci dicono delle cose sulla dispersione geografica, la densità e il size della rete. Stiamo vedendo delle ipotesi di ricerca che riguardano il core network, cioè la rete stretta dei rapporti più stretti che hanno le persone, e come, per esempio, se quei due le prime ipotesi di ricerca, forse può essere utile riprendere le file anche per gli altri, dicono questo: se la rete più stretta che hai è più densa, allora sarà più probabile che gli aiuti ti verranno prevalentemente da questa rete e che le persone che ti aiutano saranno soprattutto quelle di questa rete. Se la rete dei rapporti stretti è più larga, più ampia, sarà più probabile che gli aiuti che ti arrivano e le persone che ti aiutano appartengano a questa rete. Se questa rete che tu hai è molto dispersa geograficamente intorno a te, sarà meno probabile che gli aiuti ti arrivano da questa rete e che le persone che ti aiutano siano quelle che fanno parte di questa rete. La quarta ipotesi riguarda il sesso di queste persone. Qua si parla di gender, gender diversity, cioè il sesso delle persone che appartengono a questa rete. Allora, studies of gender differences in support transaction, qui si dice in generale, le reti che riguardano, avete visto dove sto leggendo adesso? No, alla fine. Avete ragione. Dopo l'ipotesi 3B. Consider the effect of... Studies of gender, esatto. Different, vuole leggere lei? Prego. Prego, prego. Scusi se mi sono Sempre se arrivo. Ciao, c'è lo sguardo inquinente del suo collega che è avanti. We consider the effects of our second diversity major. Gender diversity. Veniamo a studies. In conjunction with our first composition major, proportion man. Studies of gender differences in support transaction find consistently the woman typically provide more support to other than men. Ok, fermi tutti. Gli studi in generale dicono che le donne aiutano di più, quindi se hai più donne nella rete di sostegno per te è un bene tendenzialmente. Qui ci sono gli studi citati, vada avanti. Studi in abbondanza, come vedete. This gender difference does not hold in disaster context. Ok, however. Ma questo non vale nelle situazioni di disastro. Molto interessante questo, Molto interessante. In disaster, men are more likely than women to help individuals outside their families. Their families, cioè gli uomini aiuteranno con maggiore probabilità rispetto alle donne al di fuori della loro famiglia, ok? E ci sono gli studi, questo studio di Drabeck citato che dice questo. This pattern suggests that in this non-routine situation the proportion of men in the core network is critical factor. Ok. Critical factor. Perché la quantità di uomini nella rete di sostegno di un soggetto che ha subito un disastro è un fattore critico? Questo è molto importante per la costruzione dell'ipotesi di ricerca. Andiamo avanti con la lettura. But because women typically provide more support and different types of support than men do, being embedded in a network containing only men may negatively affect the informal support that individuals receive routinely from core network members. Ok, quindi cosa dice? Siccome però le donne in una situazione non di routine danno più aiuto e più tipi diversi di aiuti rispetto agli uomini, se hai soltanto degli uomini nella tua rete non routinaria di sostegno, questo è un problema, anche se gli uomini sono più affidabili durante un disastro, cioè nella rete non di routine. Se tu nella rete routinaria di tutti i giorni c'hai solo uomini, uno potrebbe dire: bene, ho solo uomini, siccome sono più efficaci delle donne, se capita una tragedia questi mi aiutano di più. Attenzione, dicono gli autori, non è così. Andiamo avanti con la lettura. If so, then in this non-routine situation the effect of the proportion of men on the activation of core network ties will be curvilinear with the negative non-linear component indicating the effect of gender diversity. We therefore predict that. Ok, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la relazione con la presenza di uomini sarà curvilinea, cioè se tu non ne hai, non ti aiuta. Se tu hai soltanto uomini, paradossalmente stai a zero, come se ci avessi soltanto donne, come probabilità che ti aiuti. Invece ci sarà un punto nel mix tra uomini e donne, tu avrai, come dire, di flesso dove... Una maggiore, esatto, una maggiore, sì, un cambio di curva, un cambio nella direzione della curva in cui gli uomini, la presenza, giusta presenza di uomini ti garantirà un maggior sostegno rispetto alla presenza delle donne. Ma se hai soltanto uomini non funziona, stanno dicendo qui gli autori. Vediamo, ipotesi 4A, più grande sarà la presenza di uomini in un individual score network, più grande sarà la proporzione dei legami di core network che è il soggetto attiverà per il supporto informale, ma la magnitudo dell'effetto declinerà, si abbasserà quando la proporzione degli uomini crescerà, quando l'incidenza degli uomini crescerà, ok? Quindi se hai tanti uomini dentro la rete va bene, ma se supera un certo livello rispetto alle donne in proporzione, quindi come incidenza, ok? Se tu hai 50 e 50 e hai più uomini rispetto ad un altro che ne ha di meno, ma sempre del 50% di uomini, hai una rete più efficace rispetto all'altro. Ma se l'incidenza rispetto alle donne cresce, allora tenderà a decrescere. Ecco la relazione curvilinea identificata dall'ipotesi. E la stessa cosa emerge non rispetto ai legami, ipotesi 4A, ma anche rispetto ai providers di informal support che proverranno dal core network. Ok? Veniamo adesso alle composizioni. Come è composta la rete? E rispetto a questo aspetto, guardiamo l'ipotesi 5 e l'ipotesi 6. L'ipotesi 5 riguarda la presenza di individui più vecchi all'interno della rete. L'ipotesi 6 invece la presenza di parenti. Ok? Allora, l'ipotesi 5A ci dice che più vecchi saranno i membri della rete, del core network, in cui un individuo è castonato, inserito, più bassa sarà la porzione dei soggetti del core network, dei legami che provengono dal core network, che potrà attivare per il supporto informale. E lo stesso vale, come lo stesso andamento che vediamo per i legami, ipotesi 5A, vediamo pure per i providers, cioè il numero dei fornitori di aiuto che vengono dal core network, cioè dalla rete più stretta. E le ipotesi... L'età. Ok, quindi più giovane, ma loro nelle ricerche identificano che vede older individuals have been shown to provide less support than younger. Cioè le ricerche dimostrano che danno un supporto minore rispetto ai soggetti più giovani. Tipo di relazione, come relazioni? Sì, ma probabilmente dipende da quello che possono dare. Le ricerche lo dimostrano sia all'interno che all'esterno dei disaster context. Vedete, c'è una buona citazione di saggi dai quali loro hanno tratto evidentemente queste ipotesi di ricerca. Per la composizione in termini di parentela, leggiamo le ipotesi 6A e 6B, vediamo che più è alto il livello di of kin composition, cioè la presenza di parenti all'interno della rete, di core network, più alta sarà la proporzione sia degli aiuti 6A che dei provider che provengono proprio da questa rete. Nel paragrafo successivo vi viene spiegato che tipo di ricerca è stata fatta, data and sample, che è il campione, ok? Allora, i punti 1 e 2 che trovate identificati proprio all'inizio del paragrafo vi dicono di che tipo di dati avevamo bisogno per fare questa ricerca. Dei dati sui core networks preesistenti rispetto a che cosa? All'organo Andrew. E poi il contesto in cui diciamo, gran parte degli individui activate those network, attivano queste reti di sostegno. Nel capoverso successivo raccontano un po' la storia di questo uragano Andrew, molto disastroso, uno degli uragani che ha provocato la maggiore quantità di danni, pensate, in termini di proprio economici, oltre che questo purtroppo una quantità importante di morti. Ma diciamo, questo uragano è Vedete, c'è stato dal 25 agosto al 26 agosto, ha riguardato in modo particolare dei comuni della... il campione, our sample includes i residenti di due comuni della Louisiana. Sostanzialmente questi hanno svolto delle interviste telefoniche nei mesi di ottobre e novembre del 1992 a 594 persone. Ok? È interessante notare che specifica che hanno potuto, sì, quelli che, ecco, però all'inizio di questo capoverso c'è, è interessante perché io per esempio quando lessi là, come hanno fatto questi a fare un'intervista, e dicono siccome le linee telefoniche erano interrate, praticamente non hanno subito danni a causa dell'uragano e li hanno potuti intervistare con delle interviste telefoniche, ok? Ecco, dopodiché si apre con le misure. Le misure sono molto importanti, adesso non entrare nella technicality sia specifica, no? Però vedere che è molto didascalico il modo in cui questi autori dividono tra variabili dipendenti, poi trovate dietro le variabili indipendenti, delle variabili che usano come altre variabili indipendenti che chiamano variabili di controllo. Allora, le variabili dipendenti e le variabili indipendenti hanno direttamente a che fare con l'ipotesi di ricerca, perché nell'ipotesi di ricerca si diceva più grande è la presenza di parenti, più grande sarà l'incidenza del core network. Quindi le variabili dipendenti riguarderanno il core network. Che cosa in modo particolare? I legami di sostegno che vengono da questo core network e quante sono le persone che appartengono al core network. Come hanno fatto a identificare il core networks? Ve lo faccio subito vedere, perché come hanno fatto, che questa è la chiave, la cosa più importante da capire per capire poi i modelli di analisi, la trovate dal secondo capoverso nella seconda colonna. Constructing, vede? Lì? Ok, lì si comincia. Constructing this measure richiede due tipi di informazioni. Una lista di membri, di rispondenti del core networks prior to the storm, precedente rispetto alla tempesta, all'uragano in questo caso, e una lista di individui che hanno fornito supporto informale durante le fasi preparative e poi di ricovero, di ripresa e di sostegno dell'uragano Andrew. Abbiamo per fare questo utilizzato two name generators. Avete voi forse sentito parlare mai dei name generator? E lei purtroppo no, perché non c'era quando eravamo in quest'aula, lei è la prima volta in quest'aula, vero? Avete mai sentito parlare dei name generator? Vi ricordate quando abbiamo parlato di personal network analysis? Cioè peschiamo un campione di soggetti e poi li interroghiamo sulle interviste. Questa ricerca qua è esattamente una ricerca di questo tipo. Questi hanno pescato un campione probabilistico random di 594 persone, le hanno chiamate al telefono e gli hanno detto: bene, dimmi la lista del tuo core network. Naturalmente non gli hanno detto core network, perché io avrei agganciato se l'avessero chiesto a me, ma che vuol dire core network? Noi dobbiamo capire però come li hanno trovate queste, cioè che domande hanno usato, perché quelle domande lì ci fanno capire che cosa intendono poi alla fine praticamente con core network. Questi li avranno pescati dalle rubriche telefoniche in pratica. Dall'elenco dei numeri telefonici, esatto. E allora due name generator, quindi una lista di nomi, generatori di nomi, ok? Il primo, vedete, tapped routine confidentes of respondents modified the name list in question. Hanno utilizzato un name generator utilizzato, come avevo detto, che la General Social Survey avevano provato a usare questi strumenti, e hanno chiesto alle persone di fare i nomi di 5 persone, massimo 5 persone, con cui discutono di argomenti importanti, con cui hanno discusso degli argomenti importanti nei 6 mesi precedenti all'uragano Andrew. Prima lista di nomi, core network, questo è il core network, ok? E massimo 5 persone. Naturalmente noi sappiamo che scelta è questa, eh? Vi ricordate? Limitare il numero delle, oppure fa riferimento, vi ricordate che io avevo detto, guardate che se volete beccare proprio le persone più importanti dovete ragionare su una limitazione, i tre migliori amici, i due vicini di banco che vorresti, in questo caso le cinque persone con le quali hai discusso, naturalmente loro vi dicono quelle più importanti, con le quali hanno discusso di temi importanti nei sei mesi che hanno preceduto l'uragano. Certo, è chiaro. Poi, ma gli elenchi quindi sono quelli del GSS? Loro hanno pescato dagli elenchi del GSS? No, hanno utilizzato due name generator tipo quelli usati nel General Social Survey, ok? No, le persone qua, vi è scritto qua. Chosen randomly from a list of telephone numbers, ok? È lo strumento che proviene dalla General Social Survey, ok? Ecco, questo è il primo. Il secondo, ah no, e poi c'è cinque individui. Esatto, i cinque individui con cui hanno discusso delle cose importanti e cinque persone con cui hanno socializzato, proprio nel senso di stare assieme, eccetera, nei sei mesi precedenti alla che io avevo messo una freccia che andava dietro. In realtà è la seconda componente, la seconda cosa che bisogna, dopo aver identificato il core network, che trovate all'inizio della pagina successiva. Abbiamo chiesto ai rispondenti chi li ha aiutati with this on the other storm preparations, cioè a prepararsi a questo uragano ad altri, quindi attivati in situazione di, con degli esempi, e qui trovate un bel elenco di esempi che si possono utilizzare: stocking up on food, water and or ice. Cioè sono proprio le cose che mancano in queste occasioni, vedete, shutting off water, gas and electricity, boarding up homes, eccetera eccetera, ok? Quindi questo è il core network, ok? I legami, le persone che attivano. Poi ci sono delle variabili indipendenti. Quali sono le variabili indipendenti? Le variabili indipendenti sono le variabili che noi troviamo nella prima frase dell'ipotesi di ricerca, ok? Cioè, se le persone sono più anziane, quindi l'età di queste persone che ti aiutano, è meno probabile che ti aiutino queste persone. E se ci sono più maschi, qual è la quantità di maschi? Hanno creato un indice, no? Per valutare il genere della rete. Insomma, le variabili indipendenti fanno parte della, sono le variabili che operazionalizzano la prima frase dell'ipotesi. Quella appunto che ti dice se questo cresce allora la rete, variabili dipendenti, ti aiuterà di più, eccetera eccetera. Ok? Infine ci sono delle variabili di controllo che trovate alla fine della frase. Quindi qui abbiamo semplicemente come variabili dipendenti delle variabili delle scale, adesso non guardiamo quello, guardiamo piuttosto in generale, no? Le variabili di controllo, naturalmente il sesso di queste persone che rispondono, vedete all'inizio di pagina 607 i rispondenti. Education in years, cioè quanti anni sono stati a scuola, che è una misura un po' standard e metrica per sapere il valore di istruzione. Poi family income in thousands of dollars, quindi il reddito della famiglia, cioè delle variabili che permettano di contestualizzare i nostri soggetti. Però siccome queste variabili sono esterne rispetto all'ipotesi di ricerca, le hanno chiamate variabili di controllo. E poi ci sono delle additional control variables, altre variabili di controllo che servono a capire un po' questi che tipo di guai hanno avuto perché chiaro, uno potrebbe dire vabbè, ma scusami, non è venuto ad aiutarti nessuno, ma tu non hai avuto danni. Ma non hai avuto bisogno, quindi che quanti danni avete avuto? Sono stati aiutati anche da altri, vedete che c'è di nuovo la Red Cross, c'è di nuovo il FEMA, appena dico FEMA il vostro collega subito ha appena fatto domanda, trasferimento. Allora, ok, le procedure di analisi. Allora, poi a pagina 608 vedete questa tabella, non è nient'altro che le statistiche descrittive di tutte le variabili utilizzate, vedete le variabili dipendenti, proportion of core networks providing informal support in fase di preparazione e in fase di assistenza, poi proportion of informal support providers that came from core networks, preparation phase, recovery phase, cioè qui abbiamo le ipotesi di ricerca sia nella fase di preparazione che nella fase poi di reazione, di aiuto da parte di queste. Vedete la media 0,152 persone, 0,178, 0,303, questa è la media, diciamo così, generale, e qui abbiamo standard, la deviazione standard, e poi abbiamo le variabili indipendenti, quelle caratteristiche che abbiamo visto, ricordate le quattro caratteristiche che poi ci hanno permesso di formulare sei ipotesi di ricerca, quindi density, size, dispersione geografica, due indici di diversità di genere, la quantità di uomini all'interno, poi l'età media della rete, 44,9 anni, e l'incidenza della kinship, parenti, come? Collegamento dei parenti, l'incidenza, proportion, ok? Poi abbiamo le variabili di controllo relative all'individuo, l'età, il sesso, vedete anche questo si usa sempre nell'indagine americana, la razza, white, ok? L'education, eccetera, eccetera, e le variabili aggiuntive, vedete? House, damage, health status, cioè le caratteristiche che hanno avuto un po' questi soggetti dopo. Ecco, che tipo di modelli di analisi hanno utilizzato? Ve ne faccio vedere uno per tutti e dopo uno per tutti, potremmo anche dire tutti per uno, tutti per uno. anche per tutti. Guardi che stavo per fare un danno clamoroso, adesso non voglio dire niente, che sappiamo che questo microfono ora. Allora, sono tutte registrate. Fuori picco. Ma che cosa ci fa con lei con queste sedie? E metti scritto. Lo diffondo e poi mi ascolto. Ah, mi ascolta. Le mandiamo alla FEMA. Collega ha detto che no, le mandiamo alla FEMA. Alla FEMA. Beh, sarebbe bello fare la raccolta degli X e Dixit di tutte le cavolate dette nel corso dei due anni. Perché è indicato come un dito? No. Noi non siamo gli X e Dixit, noi. No, va bene, allora vedete, questo è un modello di regressione, in questo caso sono i coefficienti OLS. Adesso al di là di questo ti faccio capire come funziona un modello di regressione. Anche a pagina 612, pagina 610 ce ne sono praticamente, c'è un modello di regressione per ogni variabile dipendente. Tornate un attimo alla pagina 608, quante sono le variabili dipendenti? Dipendenti qua. Ok, quindi ci saranno quattro modelli di regressione. Ok, in ciascuno di questi modelli si cerca di capire quanto tutte le altre variabili, cioè le variabili indipendenti, queste, le variabili di controllo, spiegano la variabile dipendente l'una al netto dell'altra. Cioè, quanto incide la densità sulla variabile dipendente al netto dell'incidenza delle altre variabili? I modelli di regressione tendenzialmente hanno questo scopo, cioè vogliono spiegare una porzione, se non tutta, della varianza, di come varia la variabilità della variabile dipendente a partire dall'utilizzo combinato di tante variabili indipendenti. In fondo, l'ultimo valore che trovate è un R quadro, vedete? R maiuscolo al quadrato. Sapete che cos'è quello? È il coefficiente di determinazione, è il quadrato del coefficiente di correlazione. Vi ricordate il coefficiente di correlazione che abbiamo visto prima? R. Questo è diciamo, riferito alle relazioni di tutte queste variabili, con la variabile dipendente, ed è la percentuale della varianza spiegata dalle variabili indipendenti. Se voi spostate la virgola di due unità e la portate in centesimi, il primo modello spiega il 14% della varianza della variabile dipendente, che in questo caso è in fase di preparazione la porzione del core network di legami attivati per il supporto informale. Ok? Il primo modello, avanti. Sono l'ultimo 5 minuti. Le ricordo, ecco. Sì, sì, sì. Grazie, grazie. Grazie. Secondo me 17 e mezzo, sarà una festa. 19 e mezzo. Allora, no, ma chiude alle 7:45. Possiamo stare fino alle 7 e mezza. Sì. Allora, delle regole diverse del palazzo dall'altra. Allora, la prima cosa che voglio dire è questa. Lei dirà, se fa la prima cosa alle 7:20, andiamo male. No, però, perché? Vi potrà capitare di trovarle altre, ma si leggono tutte tendenzialmente alla stessa maniera. Allora, guardate qua, questa è la prima variabile indipendente. Allora, perché ci sono due modelli? Qua? Ci siete? Allora, questo modello qua è un modello in cui si spiega la variabile indipendente solo con le variabili indipendenti, queste non sono state inserite all'interno, ok? Solo queste variabili qua spiegano già il 14% della varianza della variabile indipendente, ok? Qui sono state aggiunte tutte le altre e si arriva al 39,4%. Come si fa a vedere in che modo la densità entra in relazione con la variabile indipendente? Perché sia presente una relazione, dovrete trovare degli asterischi in alto, cioè la relazione deve essere statisticamente significativa. In questo caso è statisticamente significativa a livello dello 0,01, cioè la probabilità che la densità non sia in relazione con la variabile indipendente, che sono i legami di core network, prima della fase di regolazione, è pari a 0,01 o se preferite all'1%. Cioè è talmente improbabile che non ci sia relazione, che c'è una relazione tra densità, possiamo immaginare in maniera indiretta che ci sia. Com'è la relazione? È positiva. Se cresce la densità, vedete, il valore del coefficiente è un valore positivo. Se c'è una relazione negativa, trovate un valore negativo, un po' meno davanti. Se cresce la densità del core network, allora cresce anche la quantità di legami provenienti dal core network e utilizzati in fase di preparazione prima dell'uragano, ok? Gli altri modelli non sono nient'altro che l'applicazione di questa stessa strategia. Naturalmente, quando metti dentro le variabili di controllo, se queste scompaiono, vuol dire che sono spiegate da quest'altra grandezza. Quindi è un modo per rafforzare il modello nel tentativo di spiegare il nesso tra queste grandezze e queste altre. Vi ricordate quando avevo detto si possono fare indagini esplorative o esplicative? Qui con i modelli di regressione si vuole spiegare, si vuole dire che una cosa, quello che mettete qua, è la causa dell'altra, quella che mettete come variabile dipendente. Gli altri tre modelli sono la stessa cosa applicata alle relazioni di agli altri tre variabili dipendenti. Allora, se noi guardiamo qua dentro, per esempio, che cosa scopriamo? Se volete vi sintetizzo io dove si trova. In fondo a questo grafico, in questi pezzetti di testo, trovate l'esito della corroborazione della prima e della seconda dell'ipotesi di ricerca. Andate alla pagina prima, alla pagina precedente trovate l'ipotesi di ricerca 1A. L'ipotesi di ricerca 1A è corroborata. Se cresce la densità, cresce anche il ricorso a questi legami. L'ipotesi di ricerca, qui si guardano le ipotesi collegate ai legami, quindi guardiamo la 1A, la 2A, alla pagina 609, sì. Which supports ipotesi 1A. Avete trovato dove siamo? Poi guardando questi modelli guardando questi modelli, vedete, piano analizzandoli, si verificano o si corroborano, non falsificano queste ipotesi di ricerca. Allora, l'ipotesi 1A è corroborata. Quindi, sì. L'ipotesi 2A, invece, cioè devono esserci anche più legami, i membri della rete devono essere più presenti, non risulta, cioè quella relativa al size della rete, non risulta corroborata. Vedete che non c'è relazione. La relazione non è statisticamente significativa e quindi, secondo gli autori, la stessa cosa poi permane anche per il modello successivo, l'ipotesi 2A non è corroborata dai dati. Come pure, we do not find support for hypothesis 3A. Neanche l'ipotesi 3A, cioè quella relativa alla dispersione geografica, è corroborata. In effetti, tra la dispersione geografica e il ricorso a queste reti non c'è una relazione statisticamente significativa. Quindi la dispersione geografica non c'entra niente. Questo vuol dire che se avete dei core network lontani, se i vostri se i soggetti che state aiutando hanno dei membri del core network, anche se questi stanno lontani, li aiuteranno lo stesso. Non ne realizzeranno di meno, perché con minore probabilità i legami non saranno meno attivati per questo, i legami di sostegno. L'ipotesi 4A invece, quella relativa alla dovrebbe essere il sesso, esatto, il sesso, è invece corroborata. Meno donne ci sono, più è facile. Ci deve essere una certa cosa, ma non soltanto uomini. Il modo in cui hanno costruito l'ipotesi, esatto. L'ipotesi 5A e l'ipotesi 6A, relative all'età e alla kinship, sono anch'esse corroborate da questa ricerca. Vedete? La presenza di una rete con un'età media più elevata si lega negativamente con il reperimento di sostegno da parte di queste reti, la presenza di una più elevata incidenza di kinship all'interno della rete, quindi la parentela, si lega positivamente all'attivabilità dei legami da parte di questa rete. La stessa cosa poi si fa rispetto a B, cioè alle ipotesi relative ai provider che devono provenire da queste reti. E qui vi dico subito che tutte le ipotesi di ricerca sono corroborate, cioè troviamo quindi anche per esempio l'ipotesi relativa alla dispersione dei legami che non era stata corroborata precedentemente, in questo caso pare wide range network spread premium eccetera eccetera, è corroborata. Ok, questi modelli hanno un andamento sostanzialmente simile e quindi ci dicono, rispetto a queste grandezze, quali sono i fattori rilevanti nelle reti di sostegno core, quelle più strette dei soggetti in situazioni di disastro. E secondo me anche in questo saggio, se avete segnato gli aspetti un po' più importanti, sì, poi ve lo leggichiate, ma direi che ci siamo. Forse è stato utile, sì, presentarli così. L'unico rammarico che ho, ahimè, è che non abbiamo potuto fare un altro esempio, un ulteriore esempio oggi anche di analisi col programma. Se voi volete farne, io adesso ve lo dico, avete capito, spero che voi vi fidiate del fatto che sono assolutamente disponibile se volete a proposito di questo, se abbiamo domande possiamo, ma certo, anzi io, se vi mettete d'accordo anche da soli, sì, volete, sì. Ci diamo un appuntamento, se siete comodi io posso venire qua, va bene, posso venire qua, prenoto un'aula oppure nel mio studio a Palazzo Zorzi, sono in Lungardice, c'è Porta Vittoria 17, e facciamo qualche altra simulazione con l'utilizzo del programma. Pensateci un attimo, la prossima settimana, se volete scrivetemi, o sto fine settimana, ci diamo un appuntamento, posso venire qua o trovo e fare qualche altro esempio, abbiamo già fatti, però qualche altro esempio di utilizzo pratico del programma, se può essere più utile. Va bene? Io vi ringrazio tanto, chiudiamo ufficialmente il corso perché siete stati molto attenti, è stata per me una grande soddisfazione fare lezione con voi, vi faccio un grande in bocca al lupo per la conclusione di questo rapporto, di questa ulteriore esperienza di studio per tutti voi. Va bene? Adesso vediamo. Grazie mille. Testa. Vabbè, ma le scrivo per la chicca. Sì, scrivo. Va bene, grazie. Buonasera. Dunque, adesso devo spegnere questo che poi... Allora, arresto.